Para analisar as relações Brasil-Itália, Domenico Silipoti. Este governo foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siamo la coppia più bella del mondo. Perché non sanno più cos'è l'amore, il vero amore, per sempre unito. Cosentino non si trova, è scappato con le liste, è scappato con le liste, sarà con quel fotografo, come si chiama? Corona, sarà con Corona insieme, che Corona dicendo, quello lì lo conosco, dirà, quello lì lo fotografa. Mi sto consegnando spontaneamente alle autorità portoghesi. Se tu ti stancassi. Dicono, caro Parenzo, che ci sono liste pulite. Dicono che ci sono liste pulite. Ora. Spiegami il motivo. Anche se c'è abbastanza chiaro, spiegatemi il motivo logico, anche se la logica non appartiene alla politica, secondo la quale è in lista l'uomo che state per sentire, che si chiama Sciascia ed è stato condannato per corruzione a poco più di 2 anni, e invece non è in lista Cosentino, che non ha una condanna. La cosa è abbastanza evidente, no? Il motivo è abbastanza chiaro. Cosentino, bravo, è un personaggio visibile, mediatico. Dicono che toglierlo dalle liste porta voti a Berlusconi. Però quest'altro è condannato. Signor Sciascia, manager Fininvest, ex manager. Sentitelo pizzicato a un certo punto, credo, da Piazza Pulita. Lei ha ammesso che portava la Guardia di Finanza tangenti per 100 milioni di euro, che dovevano servire ad assicurare delle verifiche più lievi per la società Fininvest, Mediolanum, Arnoldo Mondadori, mi scusi, Edilnord e Telepiù. Sono stato costretto a portare queste cose al fine tangenti. Di un tangenti, erano denari che ve ne sono stati dati 11 anni fa o 12 anni fa. Non per essere come promozione è stato portato al Senato. E allora? Dovrà discutere lei, dovrà votare il DDL anticorruzione. Lei che è stato corrotto. Certo. Nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui. Il PDL metterà al secondo posto in lista al Senato Augusto Minzolini. Mi scusi Alfano, buonasera, ma noi liguri che minchia abbiamo fatto a Silvio per odiarci così tanto? Ha fatto indigestione di pesto? No, perché cosa c'entra Minzolini con la Liguria? Uno che ha speso con la carta di credito della RAI 68.000 euro può essere tutto, ma non ligure. Mi scusi Alfano. Ne sentiremo di tutti i colori, però qual è il motivo? Qual è il motivo che mi ha spinto a metterti questa canzone? Siamo la coppia più bella del mondo, perché il vero genio qui, il grande genio, lo dico anche come nell'accezione di genio del male qui, il grande genio ha un nome e un cognome, anzi due cognomi. Si chiama il signor Diego Volpe. E anche Pasini, il quale è riuscito con i suoi impicci, i suoi imbrogli, sentendo 1000 persone. No, se... ma non dire subito così. Aspetta. Non dire impicci, proprio, perché quello si incazza. Aspetta, stai calmo, che come al solito ti sento male perché sei in treno e ti piglierei a bastonate. Sai i bastoni, quelli veri, no? Quelli veri, con i nodi. Aspetta un attimo, stai tranquillo, Luca, fai parlare soprattutto me. Tu parla a monosillabi. Allora, il genio vero è Diego Volpe Pasini, il quale è riuscito a far candidare sicura in Parlamento la moglie. Signori miei, la moglie, la quale sì, ha un master alla Bocconi, è una pare preparata. però non c'entra un cazzo con la Lega, è numero 2 in Emilia Romagna, numero 2, signori della Lega, dovreste prendere i forconi, numero 2 in Emilia Romagna, lo sapete perché? Ve lo dico subito, perché il signor Volpe Pasini, da genio del male qual è, ha scovato questo, ha registrato questo simbolo, prima il Nord, ovviamente Maroni se la faceva sotto. Lo dico terra terra proprio, papale, perché vincere la Lombardia è fondamentale, il simbolo prima il Nord poteva togliere voti, perché è uguale a quello della Lega. È stato ammesso questo simbolo? Sapete perché in cambio di cosa Volpe Pasini l'ha ritirato? In cambio di cosa? Della candidatura della moglie. Ha ammesso la moglie! Dice, perché non lui? Poi ve lo spiego. Non bisogna votare PDL. Chiunque di centrodestra, l'appello è: non votate PDL, non votate Lega. Se vogliono votare centrodestra ci sono altri partiti, e se no mandino a fare il culo tutti. Così Volpe Pasini, prima dell'accordo con Maroni: cari leghisti, c'è uno che ha piazzato la moglie parlando col vostro leader Maroni, questo lo ammettono tutti, il quale diceva fino a pochi secondi prima, questo è un genio, la colpa non è sua, lui è un genio del male, la colpa è di chi ha firmato l'accordo perché ha paura di questo simbolo prima il Nord. Dunque, incazzati, vi riprendete le scope di Maroni e forse date qualche piccolo colpetto in testa, non so a chi, fate voi. Comunque la cosa sicura è che la moglie numero 2 in Emilia Romagna, del signor Volpe Pasini, il quale fino a un secondo prima diceva che di non votare la Lega, il PDL, di mandare tutti a fare in culo. Ecco qui. Sei forte e per questo così tu mi vai. Siamo qui, 800 24 00 24, grande ospite, il primo della serata. Beh, un grande ritorno. Maurizio Corona. No, che c'entra? Ritorno, quello è tornato, ma sta in galera. Adesso tutto gli auguro a Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ma tutto gli auguro, ma non di finire in galera. No, perché stavo ridendo, perché prima stavo ridendo per tutto, siete fantastici. Per tutte quelle stavo ridendo per Volpe Pasini, per tutte queste cose inverosimili che fanno ridere. Ma lei lo conosce? Poi uno si ferma e dice: "Ma sta succedendo nel mio paese?". Ma Zamparini, scusi, ma davvero? Ma tra l'altro davvero sta succedendo qui? Sì, purtroppo sì. Scusi un attimo, Zamparini. Allora bisogna mettersi a sbattere la testa contro il muro, ma siete pazzi. Ma peggio ancora, bisognerebbe fare. Ma siete pazzi. Scusi. Io ragazzi, siete fantastici. Ma lei voterà Grillo, perché aveva detto che forse votava Grillo. Coming out. Io sono qui nella mia casa del Friuli, sono rientrato oggi da Milano. Sì. E sono qui con i miei amici del Movimento per la Gente, che non è un partito, lo sapete, non è un candidato. Lo sappiamo. Però siamo di fronte a un bel salame mio, una bottiglia di Sauvignon e un pezzo di formaggio, del pane che faccio io. Sì. E alleviamo le sofferenze pensando di quello che si può fare. Sì. E ascoltando voi, in questo paese non c'è da fare niente. Perché noi siamo in una tragedia, perché di tutto si parla, e di quello che avete parlato voi sono la verità, fuorché dei problemi reali. Questo paese è fallito, sta fallendo. Sì, Maurizio, però io voglio capire una cosa. Stiamo parlando della moglie di Volpe Pasini, ma state parlando dell'altro che è inquisito, state parlando di quello che è questo paese. Scusami Maurizio, ma tu lo conosci tra l'altro Volpe Pasini, perché delle parti tue? Come no, mi ha portato qui l'amico Vittorio Sgarbi, che è divertentissimo, il quale mi ha telefonato settimana scorsa, mi ha detto: "Maurizio, guarda, non sono più con l'Intesa Popolare, ma vado dal Berlusca e gli dico che voglio un posto da senatore, e lo chiederò anche per te". Ma sei matto? Ma è un cinema, non è? Ma sei matto? Io non voglio fare il senatore. Scusa un attimo Maurizio, ma questo Volpe Pasini come lo giudichi? Un piccione, come lo giudichi? Ma se viene da me beve un bicchiere di vino e dice quattro sciocchezze, non può attaccare niente. E fa parte di questa Italia di intralazzoni. Ha fatto candidare la moglie. È tragico, ma no, la moglie sarà bravissima. Ma sì. È tragico che lui riesca a farlo candidare, come hai detto tu, facendo un segno politico. No, un ricatto. Vabbè, ecco, se il PM, invece di inseguire Corona, inseguissero questi ricatti, farebbero meglio. Almeno cambieremmo l'Italia. Tu che voti, Maurizio? Grillo? Io voto, o non voto Grillo. L'unico che in questo momento sta dicendo cose sensate è che io volevo aiutare con dei propositi, cioè io non mi candido. Non si fa aiutare da nessuno. Io voglio solo aiutare questo paese lavorando, facendo dei propositi per domani, e so come far ripartire questa economia. Ma insomma, dimmi la verità, Grillo lo voterai? Alla fine voterai Grillo? Grillo dirò che c'ha la mia simpatia e mi ha movimento dalla gente, dirò molto probabilmente invece di non votare, di votare Grillo, sicuramente. Senti un attimo, ma la sai questa notizia che Carraro, te lo ricordi il signor Carraro? Carraro, io non ti ho detto questa cosa, Carraro ex presidente, sai di tante cose, tu l'hai conosciuto bene sicuramente. Ma quello della Lega? Sì, quello che è stato anche al CONI, dirigente sì, del CONI. Sì, sì, è sì. Capolista del PDL o comunque numero due in Emilia. Ma avrà 90 anni. Ma guarda, in Emilia Romagna è eletto sicuro, credo al Senato. È coetaneo di Berlusconi. Sì, forse qualcosa in più addirittura. Ma ti rendi conto o no? Ti rendi conto? Cioè, che necessità ma c'era di... Ma come che ha fatto? Ma che c'entra? Non ha fatto niente. Uno può giudicare. Allora, Carraro è una persona capace, intelligente, però se alla sua età venisse a trovarmi in Friuli a mangiare mezzo salame, io ho 71 anni, sì, e lasciarsi a fare la politica ai giovani, questo paese, se non cambiamo qualcosa, Valenzo, Cruciani, che voi siete in gamba, vi prego, sì, dateci una mano a cambiare. Però Maurizio, scusa, ma un sai... un messaggio alla gente di dire basta. Sai chi è arrabbiatissimo? Il basta di Giannino te lo faccio sentire però a questo punto, siccome hai evocato il basta, guarda Giannino come concluse le sue trasmissioni qui a Radio 24 prima di candidarsi, basta lo stato delle tasse, senti. Basta! Basta! Basta! Oh, ci sei, David, finalmente, sì, ci sei. Certo che ci sono. Certo, adesso, certo, mi sembra un po' esagerato. Guarda, ti lo dedico a Zamparini, che è l'analisi di Zamparini. Non si sente nulla, stai zitto, parlo io con Zamparini perché non si sente niente, è inutile. Puoi anche chiudere il telefono, ci risentiamo tra tre ore. Allora, no, è una cosa pazzesca, guarda, Zamparini, cioè, Parenzo è una roba... Mi manca molto, porca miseria. Lo so, inenarrabile. Scusi, ma Berlusconi pensa che comprare cacà porta voti, lei ci crede a questa cosa? Io un momento di degenerazione politica, dei costumi e di stupidità come questo momento qui, dove tutta la gente sta correndo verso il precipizio e ancora ballando, non sa che fra un po', a un certo momento, sarà una tragedia. Cioè lei dice che Berlusconi se pensa che cagà portavoce è un cretino? Ma no, ma è un mondo passato, la gente in questo momento qui grida nella dimostrazione, no? Io in questo momento qui la cattiva informazione, i giornali, le televisioni che ci propinano tutte le loro false verità, sono un po' stati uccisi dalla libertà dell'internet, della rete, no? È che a un certo momento lei tutti ormai, i giovani possono ormai andare... è grillino proprio alla grande. No, esatto. Non sono grillino, dico che assolutamente io sono per il movimento per la gente, che è molto vicino a Grillo, perché Grillo oggi sta denunciando esattamente tutte le storture. Avrebbe bisogno di qualcuno che gli dice: ok, domani mattina cosa facciamo? Gli dia un po' di soldi, gli dia un po' di soldi a Grillo, che ha bisogno No, idee per ripartire il paese. Io vorrei che mi chiamassero, con tante persone come me che lavora molto, per fare ripartire il paese, non Monti. Monti deve andare a insegnare all'università, che è l'unica cosa che sa fare, non sa fare economia, sa fare l'insegnante. Oggi ha detto che lui si è candidato per i deboli e i giovani. Lui è diventato un attore, è una roba da matti, non c'è solo Berlusconi attore, è anche Monti. Si è trasformato, ha visto, no? È diventato un Monti. Tutte le volte mi fa venire mal di stomaco, tutte le volte che lo vedo in televisione. E lui è in televisione, per radio, il Corriere della Sera è suo. È suo, non esageriamo, fa campagna. Ma suo nel senso che è sempre lì. Lui è uomo delle banche. Ma cacà, porta voti o no? No, assolutamente no, gli italiani non sono così cretini, gli italiani sono solo disperati. E quando vedono dunque non porta voti cacà. Io lo dico a Berlusconi, non comprare cacà se pensi che possa portare voti. No, ma non porta neanche vittorie. Se il Real Madrid lo scarta è perché cacà non è più il cacà di 10 anni fa. Dia un consiglio a Galliani. È un cacà che deve tornare in Brasile, buono, pieno di soldi, non c'ha più gli stimoli, non c'ha niente. Senta, ma se lei retrocede che fa? Sì? Se lei retrocede, che fa? Mamma mia, mi viene un dolore terribile. Poi ritorno in Serie A. Sono retrocesso due volte col... No, il Palermo non retrocede in maniera assoluta. Vabbè, se dovesse... Facciamo le corna, tocchiamo... Se lei dovesse retrocedere, che fa? Per lei sarebbe come il dolore più grande della sua vita? Sicuramente, perché è il dolore dei palermitani, però se ci sono gli alti bassi, ma alle volte quando sei lì in basso è per risalire. Però il Palermo, se lo tenga scritto forte, non retrocederà, anzi arriverà salvo 5-6 domeniche prima del campionato. Guardi che 5-6 lo scrivo qua, è registrato, 5-6 domeniche, cioè me lo segno. Senta, ma è possibile che avete ancora un presidente della Lega che fa doppio lavoro? Allora, la fotografia dell'Italia è la Lega. In Italia c'è Monti, in Lega c'è Lotito. Il presidente. Beh, Lotito come Monti è grossa come cosa. Vabbè, insomma, è la stessa cosa. Insomma, sono due faccendieri tutti e due, uno nel calcio e l'altro dall'altra parte. Perché Beretta la fotografia, lei dice? Eh, eh, eh, tenerezza, perché l'inefficienza, l'immobilismo, cioè, un immobilismo, no? Tutta, ma io la causa dei 20 presidenti, di cui uno sono io, non ci vado più, io però in assemblea mando il mio amministratore delegato, così come la causa dell'Italia è degli italiani. Tanto dice non conta un cazzo, l'assemblea della Lega non conta nulla, dice. No, ma il movimento per la gente sta dicendo alla gente, la causa è vostra, siete voi che dovete scendere per le strade e dire basta, basta Giannino. Ma che c'ha sto Beretta che gli altri non hanno? È solo ammanicato? Che c'ha? Ma non lo so, sono fortunato, non lo so. Un uomo fortunato? Non riesco a capire cosa c'ha e perché rimanga lì. Non riesco a capire che soddisfazione di Dio. Parenzo, la visibilità, il calcio, un sacco di roba. Tanta roba. Ma però uno che va a prendere quella posizione lì, il calcio italiano sta diventando l'ultimo in Europa. Sì. No? È perché la Lega è diventata un consesso di deficienti, 20 presidenti deficienti, che poi si fanno rappresentare dai loro deficienti. Anch'io adesso ormai mi faccio rappresentare. Dunque Beretta è il capo dei deficienti, dice lei. No, poi estremizzate sempre. È il capo degli inefficienti. Lo sa Pulvinetti come ha chiamato Agnelli, una zitella? Agnelli Andrea è veramente un carissimo ragazzo, una persona che io stimo molto. Non c'è paragone tra i due, cioè Pulvinetti deve baciare le scarpe ad Agnelli, dice lei. Ma no, non occorre baciare le scarpe, Agnelli è un signore, non si sarebbe mai permesso di scendere così in basso da dire certe parole. Deve imparare, Pulvinetti deve imparare l'educazione. Ma non lo so se deve imparare. Certamente è andato oltre e mi dispiace. Parenzo, ma ci sei o sei sparito? Non ho capito. Ma io ci sono, e come infatti. Oh, finalmente finalmente ti sento. E che è successo? Era pure Zamparini era in, un po' in ambascia, non ti era sentiva. Era in pensiero, non ti sentiva più. Voglio dire a Zamparini che è ovvio che lui sia vicino al movimento dei grillini, perché lui fa il movimento per la gente, della gente, manda a fanculo tutti. Cioè, lui è un grillo, è il grillo del calcio. Lui si sente un po' il Beppe Grillo del calcio, anche, no? Ma insomma, per il grillo del calcio, non credo che si senta il grillo del calcio. No, tutti i presidenti, cose. No, io ho combattuto nel calcio per far riportare i valori. È una lotta che ho perso. Che ha votato nel passato? Zampella, la Lega l'ha votata, sì, sicuramente l'ha votata. Cosa? La Lega l'ha votata nel passato, lei? Io ho votato, quando ero ragazzo, ho votato AN. AN, ho votato, cioè DC. AN, MSI ha votato. Ho votato DC. MSI. Sì. Ho votato DC, poi? Ho votato socialista, così Craxi. Poi? Ho votato PDL, ho votato Lega. Sì. E l'ultima volta non ho votato. Sì. E probabilmente questa volta qui non voterò. No, Grillo, ha detto Grillo, ha detto. Ho detto Grillo alla mia gente, però sono talmente triste che ci sono due voti che valgono. Sì. Uno è quello per Grillo, che vorrei però che si facesse aiutare anche. Vabbè, poi non votare. Poi l'altro è il non voto. E non voto. Il grande segnale politico, se il 70% o il 60% della gente non andasse a votare, sarebbe un segnale politico grandissimo. Ma bisogna andare a votare però, Zamparini, su. No, ma a chi? A Berlusconi? A Bersani? A chi? Ma Berlusconi in televisione ancora funziona, Berlusconi? Ha visto che funziona in televisione? Ma lui è un grandissimo attore. Un grandissimo attore, quando io quando ho visto con Santoro la trasmissione, e mia moglie, capisce più di me, mi ha detto: si sono messi d'accordo prima. Ah, dice? Ma che vino sta bene? Io dicevo: no, non è possibile, Santoro con Berlusconi. E lei ha detto: sì, perché lei è fuori dalla politica. Che vino sta bevendo? Il mio Sauvignon che faccio in Friuli per gli amici. Quando verrete la prossima volta qui, siete ospiti miei. Capito, Parenzo? Sauvignon. Mandami l'aereo tuo privato. Ce l'avrò per poco, per un mese lo do via. Oh, lei ha fatto una promessa ai tifosi. In macchina, tutti bisogna andare ormai in bicicletta, bisogna fare economia, ed è giusto. Quello che si faceva una volta nei gruppi non è più possibile. Il fatturato è calato drasticamente e dobbiamo prendere contromisure. Tutti diventiamo poveri. Lo sa che lei ha fatto una promessa, ci salviamo a 5-6 ai tifosi del Palermo, tantissimi ascoltando la Zanzara. 5-6 giornate dalla fine, ci salviamo. Sicuro. Mi raccomando, guardi che chiamatemi spesso, che io con voi mi diverto un sacco e siete fantastici. Grazie, a presto. Aiutate ciao, il paese ciao. Con le vostre critiche, perché dobbiamo uscirne. Ciao presidente, ciao. Ciao cari, ciao. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well there is, well you're right son, you see God put me here just the same as he put you, so I'm nature's mosquito, and that means means I'm gonna go bye, bye, bye, bye, bye, whitey, white, sir, yes. I'm nature's mosquito, I'm gonna go bye, yes. Bye, bye, whitey, white, sir. Nice, that's what he even told me to do. E noi non candidiamo sì, magistrati, sì, dei figli di attori, no, giornalisti, atleti e campioni di canoa, o di candidiamo cose, persone normali, è fantastico, persone normali. E giustamente Grillo si scaglia contro le candidature dei personaggi famosi, i campioni di canoa, i campioni di qui, i campioni di lì, i medagliati di qua, i medagliati di là. Una cosa ridicola, patetica, tutta italiana, tutta italiana. Ovviamente anche in altri paesi ci sono dei casi, ma molto rari. In Italia ogni volta c'è questa valanga di persone candidate, poi alla fine dopo 4 anni spariscono nel nulla senza avere prodotto, zero. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Ti potrei schiacciare. Amici di Studio Aperto, mi trovo nel carcere di Lisbona, sto bene, sono tranquillo, mi sono consegnato spontaneamente. Querelo ogni persona che si permette di dire che ho pianto, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, il Resto del Carlino. Sono tranquillo, sono sereno, non ho paura, non ho pianto e sono pronto a combattere la mia battaglia. Per favore, dite oggi poi soltanto la verità che vi comunicherò. Chiuso. Cambio voglia di dormire un po'. Cioè, se non ho capito male, caro David, Corona vuole querela. Mi senti o no? Mi sento molto bene, sono entrato adesso in stazione a Roma Termini con un ritardo di 20 minuti. Volevo segnalare all'ingegner Moretti, il servizio era ottimo, è arrivato il caffè, il tè, eccetera. 20 sì. minuti di ritardo, però, ecco, io dico solo, non voglio dire vergogna, non voglio dire 20 niente. Minuti di ritardo, ma chi se ne frega, scusa, 20 minuti di ritardo è una cosa assolutamente accettabile, è accettabilissimo. Mi ero organizzato, e voglio dirlo a Moretti. Ma ti eri organizzato male, ti eri organizzato male, no, lascia perdere l'ingegner Moretti su questa roba qui, per favore, non mettere in mezzo. Non mettere in mezzo l'ingegner Moretti voglio su una cosa del genere. C'è un'attrice no, ma stai... fianco che ti voglio passare se chi vuoi. È? Avanti, chi è questa attrice? Come? Chi è questa attrice? C'è un'attrice, guarda, ma non fare così, però subito chi è questa attrice? Chi è questa attrice? È un'attrice che ci dirà per chi vota le prossime elezioni politiche. Ma chi è? Chi è? E sarà una scoop. Allora, ti è un'attrice, ti riconosce. Deve... Il film pazzesco, è uscito, te la faccio subito. Non fare però il buffone. Pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Paola Minaccioni, sono una famosa attrice naturalmente. Scusi, Paola? Sono Worldwide. Scusi, Worldwide, sì, per quelli che ci seguono e che non sanno l'inglese, significa insomma che non è attiva solamente in Italia. Universalmente nota. Esatto, universalmente nota, brava a tradurre. Allora, lei si chiama Paola di cognome? Paola Minaccioni. Ma scusi, ma lei non è famosa manco per niente. Scusi se mi posso. No, ma perché permettere. Lei purtroppo è un po' ignorante, evidentemente. Quello è problema suo. Ah, è un medico in famiglia. Che ha fatto? Adesso io ho internet davanti. Che ha fatto lei? No, io in questo, ma tra le altre cose ho lavorato con Fertan Ospetek e sì. Matteo Garrone, ma così per solo per umiliarla così in diretta. Ah, per umiliarmi così, Paola Minaccioni, signora Paola esatto. Minaccioni. Mi scusi tanto. Sì, Minaccioni come minaccia, infatti come sente poi il mio tono più o meno è quello beh, che insomma, minaccia. È abbastanza aggressiva, però mi piace questa aggressività, è adrenalinica, è molto adrenalinica come cosa. Grazie. Scusi un attimo, signora Minaccioni. Adesso mi hanno messo online i miei meravigliosi collaboratori tutta la sua biografia, sì. In pratica, praticamente. Sì. Cioè, si parte sì. Dalle donne non vogliono più, regia di Pino Quartullo, Al cuore non si comanda di Giovanni Morricone, Magnifica presenza sì. Di Ferzan Ospedale, appunto 2012, sì. Reality di Garrone. Lei ha fatto un sacco di film, io sono veramente ignorante, però. Cioè, mi dispiace dirlo, però l'importante è sapere di non sapere. Ecco, quindi... mi sembra che lei abbia dichiarato, no, io so benissimo di non sapere, infatti dichiaro la mia ignoranza totale in questo campo. Scusi un attimo. Signora Minaccioni, mi sembra che lei abbia dichiarato a Parenzo ufficialmente, possiamo anche lanciarlo tranquillamente all'agenzia sì, e darlo in pasta sì. Agli staff, che alle prossime elezioni voterà per il signor Mario Monti, o sbaglio? Guardi, allora io voterò per la novità. e per la novità, per il nuovo. Adesso è il suo compito trovare la novità. Grillo, per le Grillo, lei voterà per Grillo. Lei voterà per Grillo, mi dica la verità. Beh, se lei quello ritiene che quello sia la novità, forse novità sì. Sono tante, Grillo, Ingroia, cioè le novità proprio assolute, diciamo, le new entries, lei che parla bene l'inglese, no? Le new entries. No, la novità è che io mi sto per candidare, questa è la mia novità. Ma non è vero, ma ormai le liste sono fatte, dove si candida? A Roma? Sì, sì, certo. Vabbè, certo. Ma chi... A Roma e a Hollywood, in contemporanea. In contemporanea. No? In realtà, sì. Si sente che è un'attrice, lei ha una marcia in più a livello dialettico, come dire, no? Grazie, grazie, mi fa molto piacere perché, insomma, sospendere una conversazione con lei, insomma, è già qualcosa. Signora Minaccioni, io voglio sapere una cosa, però, lei è vero che è una grande ammiratrice del signor Grillo? Una grande, me lo dica semplicemente, io adoro Grillo e lo voterò. Allora, queste diffonderemo, sono parole sue. Queste sono parole Urbi sue. Queste sono parole sue. Io posso dire che mi incuriosiscono tutte le persone. Ma lei è peggio sono... dei democristiani, ma non è che dichiarare per chi vota. No, ma è difficile. Non è che adesso, con tutto il rispetto. Lei mi toglie in un momento di confusione. Però io con tutto il rispetto, valutando. Lei non è che sia, adesso per carità, non è ancora arrivata all'altezza, quindi non è che le sue dichiarazioni. Di Meryl Streep, lo so. Esatto, non è che se Meryl Streep dice voterò per Obama, allora effettivamente lì fai le prime pagine di tutti i giornali. Adesso, detto con tutto il rispetto, no, ma a parte gli scherzi, io realmente faccio battute perché effettivamente ancora sto valutando. Ma che sta sto valutando? È vero perché sono confusa. Ma lei è una di quelle di sinistra, come dice Giuliano Ferrara, di sinistra. Ah, io sì, sono di sinistra, con tendenze radical chic che sto cercando di reprimere perché la cosa mi peggiore da sola. La cosa peggiore del mondo, purtroppo. La cosa peggiore, io sono affetta da radical chic. Radical sono chic, pentita. Snobismo di sinistra. Terribile. In diretta. Cioè lei, per lei Berlusconi è un criminale, uno di quelli che ha portato l'Italia al disastro morale, politico e civile, tutte queste baggianate qua, no? Giusto? Beh, insomma, io direi una banalità, forse questo ormai è storia. Stupratore di bambini. Oddio, questa cosa. I comunisti mangiano i bambini. Queste insomma, robe. Queste immagini. L'abbraccio fortissimo, l'abbraccio fortissimo. Ridia il telefono a quel criminale che è accanto a lei. Visto che ci siamo, signora Minaccioni, poi alla fine sono solo una mera attrice. Ma attrice, fa l'attrice. Io faccio buffona, vorrei ricordare che in questi giorni sono nelle sale col film di Fausto Fritti. Ma quello è marchettone. Ma guarda che lei è una cosa pazzesca. Lo so, ma è fine, stringe sempre l'orticello. Ma lei mi delude. Ma proprio il marchettone. Ma non me l'aspettavo il marchettone da lei. Il marchettone, i titoli del TG3. Grazie. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il Fondo Monetario per l'Italia, strada ancora in salita, crescita tra un anno, Confindustria agire subito, serve una terapia d'urto altrimenti è il declino. Bufera Monte dei Paschi, il titolo affonda, buco da centinaia di milioni nei bilanci per rischiose operazioni in derivati, dubbi sull'acquisto di Anton Veneto. Bersani, al paese non serve né il miliardario né i tecnici, non può farci le pulci che ha creato gli esodati, nessuna responsabilità per il Monte dei Paschi. Monti ora è il paese più rispettato in campo per tutelare le vittime dei governi precedenti, cresce la polemica sulle liste del PDL, Alfano ospite del TG3. Inglesi delusi dall'Europa, il premier Cameron, un referendum per decidere se uscire, Berlino inaccettabile, prendere solo il meglio, Barroso dovete restare. Risultato a sorpresa nelle elezioni israeliane, destra e sinistra alla pari, boom del centro, Netanyahu deve trattare con chi chiede il dialogo con i palestinesi. Si costituisce a Lisbona il fotografo Fabrizio Corona, seguito grazie all'antifurto dell'auto, deve scontare quasi 8 anni, su Facebook il racconto della resa. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, ma peggio è. Salvatore da Genova, 800240024. Questa è la zanzara, ancora grandissime sorprese. Abbiamo iniziato da pochissimo, anche se Parenzo è lì alla stazione di Roma e ha passato 1 ora e mezza in treno facendomi penare come un matto, ma d'altra parte è fatto così, bisogna accettarlo, è fatto così. Salvatore da Genova, stai zitto, fermo, immobile, muto, a meno che non hai accanto a te. Anche quella di prima va bene. Salvatore da Genova, quella di prima, lo dico con tutto rispetto alla signora Minaccioni, che non conoscevo, molto simpatica. Salvatore, dica. Eccolo, mi sente? Sì, vada. Allora, non riesco a capire tutto questo caos su Ingroia. A mio parere... in che senso? Quale caos? Non c'è nessun caos su Ingroia. Quasi questa paura che Ingroia entri in politica. Ingroia avrebbe avuto molto più potere come magistrato che come leader di un partito che forse non prenderà neanche il 3%. Ma chi ha paura? Scusi, non ho capito. L'unico timore, Salvatore, scusi, l'unico timore... Di questo giustizialismo, ecco, paura di... Ma che potere potrebbe avere un Ingroia in un mini partito... Avrebbe avuto molto più potere se fosse rimasto in magistratura. Quello sicuro, quello sicuro. Il fatto di entrare in politica, a mio parere, è un perdersi completamente nel nulla. Poi un'altra cosa velocissima. Sì. Giovanardi diceva di voler fare un francobollo su Berlusconi. C'era la proposta anche di farlo su Craxi. Il problema era che la gente la saliva, la metteva nel punto sbagliato, cioè dall'altra parte. Vabbè, battutona. L'ultima cosa, lei ha un po' criticato i Notav che sono andati al funerale di Prospero Gallinari. Non ho criticato, ognuno fa quello che vuole nella vita, ma cosa diavolo c'entrano i Notav con il funerale del signor Gallinari? Sì, cioè. Ecco, e fa parte anche quello della storia d'Italia. Se n'è andata una persona che probabilmente qualche segreto se l'è portato nella tomba, sul sequestro allora? E sugli intrecci affari fra lo Stato. Ma che c'entra questo con la questione segreti? Della TAB? Cosa c'entra? Non c'entra assolutamente nulla, però noi tendiamo a dimenticare personaggi come sicuramente Gallinari che hanno sbagliato, ma che hanno avuto un'importanza. Ma chi ha avuto nella un'importanza? Vita sociale italiana molto, molto rilevante. Ma chi ha avuto un'importanza? Scusi, Salvatore, chi ha avuto? Beh, le Brigate Rosse, sicuramente. Sì, importanza nefasta, ovviamente. Molto nefasta. E allora? Personaggi come Toni Negri, secondo me si tende a dimenticare tutto questo e si tende a cancellare una parte di storia che a mio parere andrebbe... Ma chi la vuole cancellare? Questa storia è già morta e sepolta, a parte quattro stronzi di reduci, a parte quattro stronzi reduci che pensano ancora di inneggiare la rivoluzione, è una storia morta e sepolta. La rivoluzione è morta e sepolta, secondo me il problema è... Ma non che c'era nemmeno la rivoluzione, volevano instaurare uno stato assolutista in Italia, uno stato comunista in Italia, ma di che parliamo? La rivoluzione uno la vede in senso positivo, quella era volevano togliere la democrazia per mettere la dittatura, figuriamoci un po'. Salvatore, la devo lasciare. Silvano da Bergamo. Silvano, buonasera. Dica. Buonasera, niente, volevo dire, visto che Corona per 10.000 euro ho preso 7 anni di carcere. No, pare che siano 25.000, vabbè, 25.000. Il nostro caro Monti che regala 4 milioni di euro al Monte Paschi di Siena. Regala no, è un prestito, è un prestito. Poi se le vuole dire regalare prestito, è un altro discorso. Sì. Poi se uno può anche dire quei soldi non andavano prestati, si poteva fare altrimenti, quello non c'è dubbio, però non è che ha regalato. Niente, adesso, abbiamo un paese che sta affondando. Però scusi, cosa c'entra? Ci vuole gente come lui, non ma, come Monti. Sì, vabbè, ma non ho capito cosa c'entra Corona con Monti, le banche, no, lei ha fatto tutto un mischione. Per fare un paragone, no? Ma allora, quale paragone di che? Quale paragone? Parenzo, ci sei o sei ammutolito? Io non ho capito, ma è assente. Certo che ci sono, ma 4 miliardi perché ormai sono regalati. Sì, vabbè. Sono sotto forma di prestito, ma sappiamo tutti che sono regalati. Gente che ama la gente, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la tua libertà. Te lo ricordi questo, David? Ma c'è un senti la voce, senti la voce femminile, senti la voce femminile. Che lotta sempre per la verità. Oh, allora, la moglie del mitico pianista di Arcore, Mariani. Te lo ricordi, Danilo Mariani? Beh, come dimenticarlo? Beh, è protagonista delle nostre trasmissioni, ma voglio dire, dalla notte dei tempi. Beh, lo voglio abbracciare fortissimo. La storia della musica italiana. Questa. Beh, adesso non pigliare per il culo in maniera così esplicita. Il signor Danilo Mariani e moglie cantarono anche per noi in diretta qui alla Zanzara uno dei tanti inni del PDL, diciamo, no? Gente di libertà, non so cosa sia. Questo è l'inno del PDL di adesso? Sì. Di adesso? Uno dei inni del PDL. Vabbè. Ma insomma, qual è la notizia? Non è che loro cantano l'inno del PDL, uno che stava per diventare l'inno del PDL, è che la signora, come diavolo si chiama? Mi sono pure scordato, la signora Simonetta Losi, sposata in... Amabilissima signora Simonetta Losi, persona gentilissima, persona raffinata, persona, se non lo dico veramente, non lo dico così per prendere in giro. una, veramente una brava persona. Signora Simonetta Losi è candidata in Parlamento. È e vero? Per quale merito? Perché in Toscana lì da tempo coordina là. Molti dicono che essendo loro testimoni del processo Ruby, questa è la versione, come dire, un po', no, dietrologica, un po' malandrina, sì. La versione un po', no, beh, diciamo che è un legittimo sospetto, per dirla. Ma il tassista perché ce l'ha con me? Non ho capito. Guarda, il tassista, no, appena sono salito, lui stava ascoltando la zanzara, perché sì, ce l'aveva al massimo. Allora gli ho detto, per cortesia, direttore, forse sei casato, perché ho chiamato direttore qui vicino a me. Io sapevo che la prendevo. Eh? Io sapevo che la prendevo. Aspetti, che le passo cruciale così, no, che lo dice. No, no, no. E allora era molto arrabbiato, perché dice che sei praticamente un qualunquista schifoso, ha detto. Qualunquista. Lui cosa vota? Così, il tassista, no? Cosa vota, no, il signor tassista? No, posso dire qualunquista schifoso, maledetto? No, no, maledetto, solo, lei ha detto. Solo qualunquista. Anche schifoso. Solo qualunquista. Anche schifoso. No, assolutamente. Ecco, ha detto che sei anche un qualunquista schifoso, maledetto. No, ma io voglio capire una cosa. Davide, chiedi un attimo che cosa vota il signor. Perché sì, che cosa vota lei, chiede su Cruciani? Bersani. Ecco. Ma come tutti i tassisti dicono che votano tutti a destra? Il Loreno Bittarelli è candidato. I tassisti votano a destra, no? Lei vota Bersani con orgoglio anche, no? Con grande orgoglio, perché dice che è una persona per bene. Vabbè, adesso non fare lo spot elettorale. Sei un mascalzone. Ha detto che sei un mascalzone. Ha detto. Questo no, no. Non può dire. Sì. Non mi può mettere in bocca delle frasi che non ho mai detto. Quindi ha ribadito. Non ho mai pensato, non ho mai detto e mai pensato. Ha appena detto, ha ribadito che sei un mascalzone. Per la verità, è questo il popolo della libertà. Allora, io vorrei leggervi, cari ascoltatori della Zanzara, il modo in cui un ex deputato ormai della Lega, che si chiama Polledri, un caro amico, in realtà non è più un amico nostro, che ha detto delle cose terrificanti sugli omosessuali eccetera, fu ospite alla Zanzara a Roma, mi ricordo cosa ha detto, spiegando la sua mancata ricandidatura. Come cristiano sono felice perché so e constato che l'immenso amore di Dio non viene mai meno. Non siamo amati diversamente se siamo poveri o ricchi, operai o deputati. Per adeguarci a questo amore siamo chiamati, e mi sento chiamato a convertirci, cioè a cambiare il modo di amare e di fare buone le nuove cose e le nuove strade. Se anche Colombo avesse scelto di rimanere al caldo nel porto, non avrebbe mai scoperto l'America. Ma sono questi momenti poetici, cari ascoltatori, che fanno rivalutare un certo mestiere, quello di politico. Poi scopriamo in realtà che il signor Polledri, insieme a altri, godrà non solo di vitalizi piuttosto consistenti, nonostante qualche piccolissima decurtazione, ma anche della buonuscita. La buonuscita, caro tassista che mi sta ascoltando, cari tassisti che mi state ascoltando, perché pure la buonuscita? Perché? Per quale motivo al mondo la buonuscita? C'è gente che prenderà 100.000, 150, 160, 180, 200, 270 per essere stata 5, 10, 15 anni in Parlamento. Cioè, non solo il vitalizio, cioè la pensione, anche la buonuscita. Basta! Giovanni da Milano, buonasera. Giovanni? Pronto? Dica. Buonasera. Vada. No, volevo dire tre piccole cose. Sì. La prima, l'intenzione di voto, se c'era Renzi votavo PD, invece votavo... Beh, adesso non è che bisogna fare per forza dichiarazioni di voto, anzi in teoria non bisognerebbe nemmeno farle. Ah, comunque, insomma, lei... No, ma se la vuole fare la faccia, insomma... No, vabbè, se c'era Renzi votava PD, invece che vota adesso? 5 Stelle. Un'altra cosa, un'intervista su Grassano. Sì, quello di ieri, Grassano, sì, che si lamentava perché... Praticamente, sì, c'era stato oggetto della zanzara quando... Sì, più volte, eccetera, allora? E comunque una combinaia di tonde, quindi quando è diventato onorevole non ha dato neanche le dimissioni da consigliere comunale, quindi prendeva tutto il stipendio, insomma, quindi... Vabbè, lasciamo perdere il tipo che parliamo. E niente, ultima cosa sulle liste PDL che... diceva, avevano annunciato che solo il 10% dei politici sarebbero stati confermati, il resto sarebbe stato imprenditore e società civile, invece è tutto l'opposto, hanno riconfermato il 90% dei politici e la società civile è andata a benedire. Bene, grazie. Giuliano da Vicenza, buonasera. Buonasera, buonasera Crociani, buonasera Parenzo. Vada. Avrei due proposte. Sì, quali? Allora, io vorrei, nei miei sogni, Giannino Presidente del Consiglio con l'interim. Con l'interim. Alle finanze e all'economia. con l'interim, cioè a lei vorrebbe praticamente Giannino dittatore, premier assoluto. Esatto. Poi tipo... vorrei Berlusconi al commercio estero. A Berlusconi al commercio estero. Però. Come venditore all'estero dell'immagine dell'Italia. Pagando la provvigione. Ma se ogni volta dicono che andando all'estero tutti parlano male di Berlusconi, ma andiamo pure all'estero. No, adesso. Ma come venditore, guardi che lui se la cava come venditore, ne abbiamo l'esempio. Vabbè, vabbè. Poi? All'estero lui. E poi tutti gli sportivi che sono nelle liste li manderei di corsa in cerca del busto di Almirante. Come, scusi? Hanno fisico, c'hanno fisico, sono belli prestanti, tutti in cerca di corsa del busto di Almirante. Ah, il famoso busto di Almirante. Il famoso busto di Almirante. Parenzo, ci sono novità su quel fronte? Guarda, stavo vedendo adesso perché mi è stato segnalato sulla A14, segnalata presenza busti di Almirante, infatti ci sono code in uscita, prossimi aggiornamenti del traffico. Ma A14 a che altezza, scusa? A14 al quarto chilometro della A14, direzione nord o direzione ripeto, sud? Direzione nord o sud? No, direzione nord. Ecco, mi lasci pure qui, perfetto, grazie. Cioè, dunque siamo quarto chilometro, siamo a Taranto praticamente sulla A14. Sì, ma infatti ci sono code in uscita, lo vedrai nel prossimo aggiornamento sul traffico, perché tutti si fermano e dicono cazzo, quello è un mirante, e si creano code. Ho capito. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Vabbè, io provo a aiutare, poi se non viene colto no, il mio beh, aiuto. Certo, non c'è dubbio. Marco da Pisa, buonasera Marco. Pronto, buonasera. Dica. Sento che Parenzo è a Roma, ma mica è andato a trovare Eliseo. Ah, il mitico Eliseo di ieri sera, il signor Eliseo. Una battuta. Ma no, non ha bisogno, Parenzo, delle cose di Eliseo. La prostituzione, almeno pubblicamente, insomma. Va bene, grazie Eliseo Marco. Eliseo è quello, Eliseo ricordiamolo però perché... È quel simpatico signore di ieri sera, ma aspetta che abbiamo un grandissimo ritorno alla Zanzara, tra qualche istante. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beh, quando venne da noi, caro Parenzo, ti ricordi? Fu un grandissimo show, perché l'uomo è un uomo di spirito, è un uomo simpatico che non si sottrae alla battuta. Poi ci raccontò quella cosa straordinaria. Lui la raccontò, diciamo, in maniera assolutamente genuina. Poi, ovviamente, i giornali ci ricamarono tantissimo. Beh, a me piace moltissimo perché ogni tanto va lì ad affrontare l'arena, sa, anche nei momenti più difficili per il governo Monti, no? Quelli di grande critica, quelli in cui il governo Monti veniva preso a pietrate, no? Lui era lì a difendere, certo. A combattere. Sì, certo, di gaffe ne ha fatte, in questo anno. Diciamola tutta. Beh, di gaffe. È un amico, io lo considero praticamente un fratello della Zanzara. Adesso un fratello, mi sembra francamente esagerato. No, io per lui provo un affetto come per i fratelli. No, io provo un senso, perché quando è lì si vede che un po' si diverte, un po' vorrebbe dire di più, almeno io l'ho visto in tutti i talk show, una volta che è passato anche da noi qui alla Zanzara. Però insomma non si sottrae mai, questo già è un buon indizio. Beh, insomma, ci mette la faccia, combatte. Beh, insomma, è un grande lottatore. Chi se non Gianfranco Polillo, buonasera. Buonasera. Come sta? Dopo tutte le cose belle che avete detto sul mio conto, mi avete rincuorato. Beh, adesso l'hanno trattata, i giornali la trattano, a parte che adesso arrivano le saracche come al solito, però i giornali la trattano come una sorta di un gaffeur di professione. Attribuiscono tutte le responsabilità totali di qualsiasi cosa all'economia dell'Italia, a quello che ha fatto il governo Monti. Dunque, qualcosa di buono dobbiamo dire, no? O no? Grazie, come siete buoni. Scusi, signor Polillo, io leggo che lei in realtà adesso comincia a fare un po' a giocare a tennis, è vero o no? Sì, devo dire che è una delle attività però purtroppo marginali, perché poi ho ancora un po' di cose da fare. Però fra un po' di tempo... Ho voglia di recuperare il tempo perduto, perché... Durante questo anno di servizio militare l'intensità del lavoro era talmente elevato che poi un po' i libri, gli approfondimenti, uno l'ha dovuto mettere un po' da parte. Beh, perché il tennis è che è un approfondimento, no? Cioè, nel senso anche... No, parlo di approfondimento di studio. Per esempio, se posso sapere che ho fatto tutt'oggi, sto cercando di ricostruire la serie storica dei tassi di interesse americani dagli anni 50 fino a oggi. Ah, oggi lei ha fatto, cioè, in realtà ormai il sottosegretario non lo fa quasi più, diciamo la verità, il sottosegretario all'economia. Ci sono un po' di adempimenti ancora da fare. Hai capito, Parenzo? Tu non l'hai fatto? La mattina sono in ufficio, poi il pomeriggio... Va a giocare a tennis? Una partita... No, preferisco devo dire che quando quelle rare volte sì. che vado al tennis, anche, ma poi il tempo non invita, devo dire, no? No, certo, certo. E quindi principalmente vado a casa, tra i miei libri, nei computer, e appunto faccio queste cose un po' stravaganti. Ma perché non si è candidata? Perché nessuno ha pensato di candidarla? Gianfranco Polito, sottosegretario all'economia e alla finanza, uno che diede il curriculum a Cicchito, ve lo ricordate tutti, da noi qui fu un episodio straordinario di racconto genuino di quello che accadde, curriculum depositato a Monti. Perché non, nessuno ha pensato di candidare? Io pensavo, insomma, il PDL, Polillo, il legame con Cicchito lo candida. Veramente io non mi sono nemmeno dato molto da fare, ne confesso direttamente. No, perché cioè, partivo dal presupposto che insomma uno che non c'era posto, può dare una mano al paese in tanti modi, non è necessariamente, non deve fare necessariamente il deputato o il senatore, insomma. Ho ritenuto nella mia immodestia che se era utile, qualcuno avrebbe chiamato. E invece niente. Grande illusione in questo paese. Niente. Però che può fare, uno è fatto come è fatto, insomma. Ma niente, se l'aspettava, però qualcuno diceva Polillo, è uno dei pochi ministri che magari no, più vicini al più vicini. Ma lei che voterà adesso? Scusi se glielo chiedo. Ma guardi, io sono un po' incerto, le devo dire che sì. Perché queste forze politiche sono dei grandi contenitori, no? Sì. In cui c'è tutto e il contrario di tutto. Quindi non appena ci saranno le liste, valuterò le liste sulla base delle le liste ci sono. Ma di stima professionale, di stima politica che ho nei confronti delle persone. Ma Monti lo voterà, mi dica la verità. No, ma dipende, difficile. Dipende dalla lista che presenta. Io purtroppo non voto a Roma perché sono residente fuori. Dove vota? Io voto a Latina, quindi dipenderà da... Vabbè, Lazio 2, là, sì, Lazio 2. Non ho visto ancora le liste, dipende dalle persone che ritengo. Vabbè, ma non è quello, uno fa la scelta sulla base anche... cioè, lei è ministro e sottosegretario del governo Monti, mi dica la verità, secondo me lei è uno di quelli che Monti non lo vota. No, assolutamente non è detto. Non dipende, è detto. Dipende, dipende il candidato che c'è, scusi, candidato sconosciuto, sì. Messo lì tanto per metterlo, non lo voto, se è una persona che ritengo serio, come no. Ma le piace il Monti battagliero di queste ultime da campagna elettorale oppure le piaceva più il Monti governativo, diciamo? No, devo dire che sono sorpreso. Sì. Sorpreso perché come lo conoscevo io, che ogni volta che andavo in televisione tremavo perché dico speriamo che non dica cose che poi il presidente mi chiama e mi fa un rimbrotto. Ed è adesso successo? Lo vedo molto spigliato che dà giudizi a destra e a sinistra. Cioè io rispetto a lui veramente sono un dilettante proprio. Fa un po' il Polillo adesso, fa un po' il Polillo. Molto di più, devo dire. Non se l'aspettava, ma è sorpreso positivamente o negativamente da questo punto? Positivamente, perché voglio dire, questo significa che quando uno sale in politica, come dice lui, ci mette un pizzico di passione in più nelle cose che però fa. Però faceva politica anche prima, diciamo la verità, faceva politica pure prima, non esiste questa cosa dei governi. Ma lo faceva in modo diverso però, non completamente diverso. Era più un direttore d'orchestra che bacchettava chiunque suonasse in quel momento. Adesso si butta nella mischia, esprime giudizi, polemizza, dice anche delle cose un po' sopra le righe, no? Molto tipo? Più, come dire, molto più sopra le righe di come le dicevo io, perché io in qualche modo ero sempre un po' un timore reverenziale, lui giustamente. Adesso attacca soprattutto Berlusconi, attacca soprattutto Berlusconi, è scatenato su Berlusconi. Berlusconi, ma devo dire che non risparmia nemmeno Bersani. Però sì, su Bersani diciamo un po' meno, dai, su, diciamo la verità, un po' meno. Ma diciamo che il presidente Berlusconi si prezza di più, no? Una specie di Pungibol, perché nella sua grande capacità comunicativa, naturalmente... Sì. Senta, lei che è un garantista storicamente, no? Sì. Uno di quelli che ha sempre difeso anche no? degli eccessi della magistratura. Ma questa cosa di Cosentino, adesso, francamente, no? Non è un po' eccessiva? Cioè, difeso fino adesso, un po' sacrificato all'altare del consenso o no? Ma guardi, io non posso dare un giudizio sereno su questa vicenda perché sono molto amico di Stefano Caldoro, che apprezzo... Sì, questo lo so, sì, ex socialista pure lui, sì, certo. Sì, ma no, poi sono stato il suo capo di gabinetto sì. qualche anno. Vabbè, vuol dire questo, però non toglie che Caldoro è uno di quelli che non ha voluto Cosentino in lista, insomma, ovviamente, per motivi che sappiamo. Ha fatto una battaglia politica. Ha fatto una battaglia politica, però adesso io volevo che lei tirasse fuori la sua... Ci sono i precedenti, come lei sa, su una vicenda tra Cosentino e Caldoro. Insomma, certo, poco, come no. Poco edificanti. Come sì, dire. Un presunto dossier contro Caldoro che sarebbe stato costruito da Cosentino, la cosa è ancora in tribunale, se non so bene. Sì, non so poi... Cioè, lei non ha grande apprezzamento di Cosentino, che peraltro era sottosegretario nello stesso ministero in cui ha lavorato lei. No, guardi, io Cosentino personalmente non lo conosco, cioè non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Non ci siamo mai incrociati. bruciati, quindi però non... ha fatto bene il PDL a escludere la lista secondo il presidente Berlusconi? Ma io credo che alla fine se hanno seguito un criterio che è quello più giusto, insomma. Comunque, che è quello del consenso, quello dei sondaggi. La Ghisleri ha fatto fuori Cosentino perché ci sono altri personaggi molto meno visibili e molto meno mediatici. Ma questa è una cosa molto positiva per il paese, Cioè se il paese reagisce così di fronte al rischio di personaggi chiacchierati, sì, con spostamenti di voti, questo significa che siamo un paese ancora vitale. Per cui è giusto secondo lei, cioè è stato un bene per il paese l'esclusione di Cosentino? No, io adesso non mi faccio dire cose che non dico, io dico che da un punto di vista politico è stata una mossa giusta, cioè nel senso E dunque è stato giusto escludere Cosentino, punto di vista politico, dal punto di vista onorale o da qualsiasi altro. No, dal punto di vista giudiziario non lo possiamo dire, dal punto di vista politico secondo lei è stato giusto ed è stata una mossa buona. Ma lei si ricorda che cosa diceva Mao Zedong quando parlava della rivoluzione? E punirne, com'era? No. No, quale? Diceva, la rivoluzione non è un pranzo di gala, ma un violento con cui una classe sostituisce un'altra classe. La politica è questo, cioè non è un pranzo di gala. Quindi quando uno entra in politica e vuol fare politica, allora deve capire che ci sono dei vincoli che deve rispettare. Poi se non li vuole rispettare, è liberissimo di farlo. La cosa di Mao si applica al caso Cosentino, dice lei. Si applica a tutti i politici. Sì. Vabbè, in particolare stiamo parlando di questo, al caso Cosentino. Senta un attimo, ma sempre Monti ha dato dei giudizi molto severi per esempio su Vendola e la CGIL definendoli dei conservatori. Lei è d'accordo sul fatto che Vendola e la CGIL sono dei conservatori? Ma io do un giudizio differenziato tra la CGIL e Vendola. Mi è diventato democristiano improvvisamente? No, perché sono personaggi diversi. Cioè qual è la cosa che in Italia impersonifica di più la conservazione secondo lei? La CGIL? Ma in questo momento una parte della CGIL, non tutta la CGIL. Cioè la Fiomme è la Fiomme la cosa più conservatrice che c'è in Italia? Adesso, io avendo una certa età ho avuto così la fortuna di conoscere e lavorare sia con l'AMA sia con Trentin. Devo dire che in quegli anni sia l'AMA che Trentin sono state persone che hanno dato un contributo enorme alla comprensione dei fenomeni. E oggi invece la CGIL è molto molto conservatrice. E in parte questo è riflesso anche della crisi, però loro non comprendono che la crisi si affronta con l'innovazione, non rinchiudendosi dentro un fortino inesplorato. Ma Grillo ha ragione, anche esagerando, quando dice che i sindacati sono una cosa vecchia. Adesso ha detto eliminare, aboliamo i sindacati, però ha ragione un po' o no? Cioè I sindacati in quanto tale, in un'accusa generica, secondo me ha torto. Però all'interno dei sindacati ci sono delle forze maggiormente conservative. Purtroppo il rapporto tra riformisti e conservatori nella CGIL è molto più elevato che non negli altri sindacati. Parlo naturalmente. Sì, certo, chiaro. Parenzo, ci sei o no? Sei sparito nello sprofondo di qualche cosa? Dove sei finito? Che ci sono, ascoltavo queste riflessioni di Polino. Ma dove sei ancora? Dove sei? Sono sotto casa mia, perché se salgo a casa dici che non si sente. Quindi sono costretto, e lo dirò a Landini, a stare sotto la pioggia davanti a casa mia per accontentare te e i radioascoltatori. Ma tanto in Italia non si può licenziare nessuno, vero Polillo? Purtroppo non si può licenziare nessuno in Italia. Ma non è purtroppo. Purtroppo. Guardi, io ho avuto oggi una grande soddisfazione. Che è successo? Come ricorderà, Crozza ha fatto una parte della trasmissione sul mio nome. Sì. Dicendo appunto nella polemica che ha avuto con Landini, che ho pensato che in Italia si lavorava poco. Sì, ma che è giusto, è vero. Io ero considerato una specie di ma io ho sempre dato ragione a lei. Un marziano caduto, venuto da Marte, no? E oggi Confindustria dice le cose che io dicevo. Cioè che è vero che in Italia si lavora meno che da altre parti. Esattamente, e non solo, ma dice che bisogna lavorare una settimana in più, che erano le cose che dicevo io e che fece tanto scandalo. Quando io dissi, e che lei conferma? Che lei conferma? Assolutamente sì, in modo tetragono. Io ho continuato a insistere su questa tesi, nonostante gli sberleffi, le critiche. Eccoci qui, sono le 20 in punto, 800 24 00 24, è con noi uno dei membri ancora del governo Prodi, in no, carica. No, Prodi no, non sono mai Prodi, ma non so perché dico Prodi, sono impazzito, il governo Monti, Gianfranco Polillo, sottosegretario all'economia e alla finanza, però una cosa su questa vicenda del Monte dei Paschi di Siena va detta. Polillo, ma se, quelli che coinvolgono, cioè il PD ha qualcosa da farsi rimproverare in questa storia, secondo lei? Ma lì c'è tutta una vicenda complessa, come non c'è dubbio. Fu uno scontro per quanto riguardava i rapporti con la fondazione. Sì. Ci sono state tutta una serie di operazioni che furono criticate all'interno stesso insomma, era cambiato nome, sì. Era il PDS, no? Sì, ma qualcosa contro, per esempio, tra Bassanini e Amato, sì, da un lato, sì, e i politici che facevano riferimento, sì, alla direzione del partito. Ecco, ma voglio capire se secondo lei la politica, e in particolare il PD, ha qualcosa da rimproverarsi in questa situazione. Ho paura che un piccolo esame di coscienza lo dovrebbe fare. Bersani anche, Bersani non lo so, ma aveva una posizione di potere tale da poter incidere su quegli equilibri. Però il PD un piccolo esame di coscienza lo dovrebbe fare i dirigenti che hanno preceduto sulla gestione, Bersani. Lei dice, sulla gestione complessiva della vicenda dal punto di vista politico, eccetera. Ma sì, lì ci sono degli intrecci un po' perversi con i capitani più incoraggiosi, come ricorderà, Telecom, Mignotti, insomma, sì. Anton Veneta. C'era stato poi il precedente ancora peggiore, sì, sotto alcuni versi, Banca 121, no? Sì, come era stata acquistata pagandola molto di più, e poi, cioè, sul campo della Banca 121, sì, era diventato direttore generale dell'MPS, cosa che non si era mai verificata nella storia d'Italia, no? Sì, in cui, se una banca grande assorbe una banca piccola, è strano che quello che era uno dei manager della banca piccola diventa il manager della banca grande, insomma, delle stranezze. Dunque, anche il Partito Democratico, quello che c'è prima, il Partito Democratico, dal punto di vista degli intrecci tra politica e finanza, ha molto da rimproverarsi, dice lei. Sì, in qualche modo, da, siamo tutti figli di questo mondo. Non è che è illibato rispetto ad altri, diciamo, rispetto ad altri partiti. Ma guardi, la politica comporta inevitabilmente delle commissioni. Sì, sì. Bisogna stare molto attenti a non caderci, ma insomma le commissioni ci sono state. Senta, il ritorno del Cavaliere, ovviamente tutti dicono che è impossibile, ma la vittoria di Berlusconi sarebbe un disastro per il paese, secondo lei? Bella domanda, no, disastro no, perché poi conta il voto degli elettori, insomma. No, certo, non c'è dubbio, però, però non, lei non la vedrebbe come un disastro, so. Ma dipende poi dal tipo di uomini di cui si circonderebbe. Perché vedete, anche nel caso del presidente Monti, non è che poi il presidente Monti veniva lì al ministero, anche quando era ministro dell'economia, non è che veniva lì e c'era la gestione quotidiana, no, certo, del ministero. Certo. Sì, aveva delegato queste sue funzioni, c'erano i due sottosegretari, il vice ministro. Che voto dà lei al governo Monti? Mi dica anche a livello di. Insomma. Sì. 6 meno, 5 più. No, avendoci partecipato, io gli do, considerando il clima complessivo, specialmente a livello internazionale, io gli do 7,5. Vabbè, 7,5 esagerato. No, gli do 7,5 perché non avete, cioè, la difficoltà che abbiamo incontrato. E al Presidente del Consiglio Monti quanto invece? 7,5 al governo del suo complesso, a Monti un po' meno, un po' di più? No, 7,5 al Presidente del Consiglio, forse al governo un po' meno. Al governo un po' meno. Chi è stato il ministro peggiore, secondo lei chi è stato? Quello che l'ha delusa di più. Quello che l'ha delusa di più. Guardi, io non è che ho avuto rapporti con tutti i ministri. Vi posso dire la cosa invece che ho apprezzato di più. Questo di più. Ma perché ci sono stati in contatto con Corrado Clini, per esempio, per quanto riguarda tutta la politica ambientale, lo stesso Passera, per alcuni versi. Poi io ho lavorato principalmente con i sottosegretari. Perché lei ha detto che è stato un servizio militare quest'anno e mezzo? Il servizio militare è un'altra cosa. No, perché è stato un anno e mezzo molto duro. Specialmente per me che... Ma Renzi, se avesse vinto Renzi, l'avrebbe votato lei? Prego? Se Renzi avesse vinto le primarie del Partito Democratico, l'avrebbe votato? Renzi? Sì. Beh, devo dire che sono stato sempre molto... combattuto sulla figura di Renzi, perché da un lato apprezzavo la sua carica, la voglia di rinnovamento, dall'altra parte io sono un po' una persona che sta sui contenuti della politica, e devo dire che i contenuti erano ancora di Renzi una prospettazione programmatica non ho mai ascoltato. Senta, ma un governo Bersani-Vendola sarebbe un po' un problema per il paese, secondo lei? Bersani-Vendola, un bel governo di sinistra, sia alla Camera che al Senato, sarebbe un problema? Governo di sinistra, che intende? No, governo di sinistra, Bersani-Vendola, senza Monti, cioè che ha la maggioranza sia la Camera che al Senato. No, guardi, ci vuole un governo riformista. E dunque non sarebbe un governo riformista? Un governo con un tasso di riformismo elevatissimo. E dunque non sarebbe un governo... va a picco. Dunque non sarebbe un governo riformista quello Bersani-Vendola? No, dipende, perché torno a dire, lei non mi ha fatto prima rispondere su Vendola. Vendola, vede, è un distillato della vecchia tradizione togliattiana. Sì. La doppiezza, cioè le grandi evocazioni di grandi scenari internazionali e poi una gestione nella quotidianità politica che era completamente diversa. Quindi io non lo considero un eversivo. Però? Perché tra l'altro mi dicono che in Puglia, per esempio, lui come governatore... Cioè non è un eversivo, però perché lei dice doppiezza allora? Perché la politica, la doppiezza è la madre della politica. Cioè lei dice grandi evocazioni di grandi principi rivoluzionari. Togliatti è passata la storia per questo elemento, per questa grande prospettazione del sol dell'avvenire, e nel frattempo votava l'accordo con la Chiesa. Beh, comunque un paraculo allora, anche un po' paraculo. Paraculo non lo so, ma io credo che questa, l'arte della doppiezza, è un po' una caratteristica intrinseca della politica. Dunque lei dice che alla fine avendola si adatterà, insomma questo è il punto. Siccome è il distillato di quella cultura politica, non credo che avendo la faccia in alto, tanto per capirci. Sì, ho capito benissimo, capito Parenzo o no? Sì, ho capito, che volevo chiedergli questo, una cosa molto netta, quasi in chiusura, cioè Polillo, che è stato sottosegretario, no? Ora ce l'ho ormai mani libere, ce lo può dire. Di che cosa ha bisogno sto paese? Cioè, alla fine, ma che domanda è? Ma dai, su, ma è una domanda generica. Ma no, ha bisogno più, ma questo di Monti, quando non studia, ha bisogno più di Monti o di che cosa? Più di un Monti o più di un bersaglio? Questo è il punto, alla fine. Non è che si può girarci intorno, si può giocare. Secondo me ha bisogno più di un Monti che di Bersani. Più Monti di Bersani. Lo dico con grande onestà intellettuale. Più perché Monti ci vuole Bersani. Un paese che deve... Noi abbiamo esaurito tutte le... Beh, lei vota Monti, allora, su, dai, diciamo... E questo è il punto. Sciogliamo la riserva. Io sono un vecchio riformista dai tempi insospettabili, perché... Comunque vota Monti, lei vota Monti, lo dichiari, lo voto. Io insisto nel dire, io voto la persona ma ho che... visto, ma ci sono due sconosciuti là. Ma ci sono due sconosciuti, io... Così. Sarebbe assurdo dare un voto. Ma io lo posso dire, dire Lazio 2, lista civica, ci sono persone che lei probabilmente non conosce, cioè non... cioè, intanto uno può, qualche amico ce l'ho, insomma, no? No, ma sto dicendo, ma sto dicendo, Polillo, che uno vota anche in base a un criterio che è quello nazionale, a meno che non ci sia a meno che non ci sia Jack lo squartatore capolista lì, uno no, le chiedo scusa, è questo che deve finire. Il fatto che si vota per fede. Ma no, non per fede, per convinzione, non per fede, perché uno è convinto. Ma no, la convinzione deve essere basata su dati oggettivi, perché io che sono stato un anno e mezzo in Parlamento ho potuto valutare la maggior parte, specialmente nelle commissioni che ho frequentato, con le commissioni economiche, e le assicuro, lì c'era tutto il contrario di tutto, c'erano gente di grandissimo livello e poi culturale, delle gente in cui non gli avrei affidato una tabaccheria. Purtroppo è così. Allora, per esempio, chi è uno? Vorrei essere un elettore avveduto. Sì. E allora cerco di pescare in questi grandi contenitori. No, è giusto anche questo. Se lei mi dice Giampaolo Galli lo voterebbe, io dico subito. Ma certo. Voterebbe Giuliano Cazzola subito. Scusi un attimo, Polillo, ma in Parlamento non ci sta soltanto Giampaolo Galli oppure Mocchetti oppure ma ci sta tanto. In Parlamento c'è più gente cui non affiderebbe manco una tabaccheria, c'è dei caproni o gente seria? Me lo dica sinceramente, lei che ha visto e da tanto tempo conosce. Io frequento il Parlamento da circa 40 anni. Ecco, ma questo Parlamento qui. Esatto, in questo Parlamento. Mi assicuro che c'è stato un calo nello skill dei singoli parlamentari. Nella preparazione, che fa paura. Oggi ci sono molti più caproni, diciamola tutta. Caproni no, ma insomma gente che così, che sta in Parlamento... Per grazia ricevuta, dice lei. Ma nemmeno tanto, così, che non capisce l'importanza delle istituzioni. E che non sa... Non capisce l'importanza dell'impegno che c'è, che bisogna mettere nel proprio lavoro, un po' gente così, che considera, sai, come molti professori universitari, no? Sì. Che sono professori universitari per metterlo sul biglietto da visita. Non funziona così nelle democrazie moderne. Vabbè, invece in un momento difficile come questo. Lei una volta ha detto recentemente, rispondendo a una lettera, che una certa sinistra è lontana anni luce dall'essere normale. A chi si riferiva? Non mi ricordo quando l'ho detto. Sì, l'ha detto a proposito di un articolo di Repubblica sui poveracci, in cui lei ha smentito di aver usato il termine. Ah sì, no, ma lì perché c'era una cosa che insomma... No, ma perché? Ma qual è la sinistra che è lontana anni luce dalla normalità, per quella esempio? È appunto quello che ragiona con schemi ideologici, cioè il fatto... che c'è la destra cattiva, la sinistra buona o viceversa, insomma. Siamo un paese in cui ci sono, e guarda, glielo dico perché c'erano da un lato i comunisti, che sono quelli che per definizione mangiano i bambini, e dall'altro quelli che sono soggetti geneticamente modificati, l'espressione con cui Berlinguer attaccò Craxi, no? Senta, secondo lei c'è stata un'involuzione genetica. Certo, secondo lei dobbiamo uscire da questa. No, ma non c'è dubbio. Berlusconi è stato un grande statista, secondo lei? Chi? Berlusconi. Ma Berlusconi ha avuto il merito di aver radunato delle truppe che erano sparse in un paese che non è certo a favore della sinistra, e gli ha dato un sogno, un progetto. Poi se si è riuscito a realizzare questo progetto, mi pare che insomma le cose parlano da sole, insomma. Non c'è però dubbio. Se avesse riuscito, se fosse riuscito a fare anche questo, sarebbe stato un altro De Gasperi. E De Gasperi in Italia ne nasce uno ogni Monti si può avvicinare, no? De Gasperi. Lo giudicheremo sulle reazioni che innanzitutto lo giudicheremo su come condurrà questa campagna elettorale e se la vincerà. Beh, ora divertiamoci un po', su, eh. Ivan da Roma, buonasera, 800-24-0024, Ivan. Buonasera. Vada. Posso dirle? Sì. Dunque, io sono un elettore di sinistra, non ci sono dubbi su questo. Sì. Però io volevo fare un... Intanto c'è una querela, scusi un attimo, c'è una querela di Bondi a Crosetto... Perché Crosetto, a una trasmissione della televisione del Fatto Quotidiano, ha detto Paniz, l'avvocato di non è avvocato di Berlusconi, storico avvocato parlamentare, protagonista di mille battaglie anche in Parlamento sulla vicenda Rubi, eccetera, eccetera, è stato fatto fuori a favore della donna di Bondi. A favore della donna di Bondi. Quel santo inquisitore di Sandro Bondi, a parte Crosetto adesso è con Fratelli d'Italia, non si capisce perché deve parlare del PDL, ma comunque lasciamo perdere. Io gli voglio bene Crosetto, però insomma Può criticare le liste del PDL, ma chi gli frega di parlare del PDL? Ormai è uscito, sta in Fratelli d'Italia, parla del PDL, cioè parla di Fratelli d'Italia. No, nella normale lotta politica critica, ma non è la politica, sono alleati, cioè, ma quale lotta ma politica, ma lui dovrà far vincere la sua di lista, ma ho no? capito, ma però insomma capisci che però io capisco tutto, ma è ridicolo. Cioè, no, stai facendo una polemica inutile, perché Crosetto giustamente d'accordo. Critica i suoi alleati per come fanno le liste, ma pensasse alle liste di Fratelli d'Italia. Hanno due prodotti, sono alleati, ma hanno due prodotti concorrenti. Ho capito, ma dire, scusa un attimo, la Lega, che pure è molto distante dal PDL in questo momento, per certi aspetti, critica le liste fatte da Berlusconi? No, non dice una parola nemmeno su Cosentino. Ma no, ma come fai a non capire? A me mi dispiace, perché sei talmente... Ma cos'è che non capisco? Ma è la competizione di che cosa? Ma che dici? Uno c'è la competizione, noi siamo diversi, siamo fatti così, non Bondi ha candidato quello, non l'ha candidato a favore della moglie. Scusami, ma che dici? Cosa dici? Anche se alleati, proprio perché concorrono con lo stesso elettorato. Ma scusami, non è talmente logico. Non è poi così, ma lascia perdere, è chiaro che c'è una competizione. Sarebbe candidato nella lista del PDL. Vabbè, ma non hai capito, perché... non hai capito, sei un poveraccio, che ti devo dire? Cioè, non hai capito qual è il punto. Il punto è un altro. Io non ho detto che è sbagliato farsi concorrenza, capisci? Non capisci un cazzo. Ecco, appunto. Hai capito, David? Vabbè, adesso. Sì, ho capito, ma mi pare un argomento stupido da parte tua, perché invece Crosetto, che deve promuovere la sua lista e dice che è stata fatta con criteri diversi. Ma perché deve attaccare? Ma ho capito, ma in questo... Vabbè, comunque ha detto quel santo inquisitore di Sandro Bondi. A parte che dice la verità, cioè dice una cosa. Ma che ne sai? Ma quello ha querelato. Ma che ne sai che dice la verità? Ma tu, no, senza sapere nulla, dici che. La a me risulta candidato Paniz, tra l'altro. Mi risulta candidato in Veneto. Di che sta parlando? Sì, è candidato. Ha detto che è la fidanzata di Bondi. No? Ma cosa c'entra questo? Ma non ha detto mica che. Ma il punto non è che è la fidanzata di Bondi. Ha detto Paniz fuori per la donna di Bondi. Allora, è vero o no che Paniz è fuori? A noi non risulta. Adesso lo chiameremo. Abbiamo il telefonino. Quel santo inquisitore di Sandro Bondi ha fatto mettere da parte dei galantuomini. Sono certo che Cosentino sarà assolto e alcuni dei candidati saranno condannati. Vabbè, in ogni caso, ha fatto Paniz fuori per la donna di Bondi. Non so cosa si riferisca. A me risulta candidato Paniz. Candidato in Veneto. Sembrava candidato in Veneto, quello che avevo visto. Ma io, però. Per cui ha sbagliato l'assunto. Cioè, sembra da quello che hanno scritto i giornali che si è candidato, magari, però Crosetto ha informazioni. Infatti Bondi dice: ho dato mandato al mio avvocato dottor Alberto Genovesi di adire le vie giudiziarie nei confronti del signor Guido Crosetto a seguito delle sue reiterate pubbliche dichiarazioni lesive della mia reputazione e onorabilità. Lui dice: Crosetto, un galantuomo come Maurizio Paniz, è stato sacrificato da un santo inquisitore come Bondi, che poi ha piazzato la fidanzata. Adesso, da chi sia stata piazzata, se da Bondi o da Berlusconi, la fidanzata di Bondi, che è già in Parlamento peraltro, signora Repetti. Questo va benissimo, si può fare anche una critica di questo tipo, ma che Paniz risulti defenestrato da Bondi non ci risulta. Tu sei come Eravamo con Ivan da Roma. Allora, Ivan, caro Ivan. Allora, volevo dirle, mi domando spesso perché io sento la televisione, perché sento la sua radio e perché parlo, ascolto sì. la Zanzara. Sì. E mi sono finalmente trovato una risposta. Oh, qual è? Così lo sappiamo pure noi. Perché? Perché c'è Parenzo. Lui mi fa così incazzare sì. che funziona come, che ne so, un film dell'orrore. Allora uno guarda e vede un film dell'orrore, che cosa fa? Dice, ma quello a me non potrà mai succedere. Io così, diciamo, di parte, così privo di logica, di voler seguire una logica, non lo sarò mai. E ma allora io di parte di chi, per esempio? No, lei è di parte. Ma tu di quale parte? Della sua parte? Ah, della mia, così questo mi piace. Questo ognuno mi piace. È della propria. Però questo, della sua parte. Ma questo perché, è, vada sì, anche lei è di parte, sia, allora. Mi stia a sentire, Cruciani, sì. Lei ha iniziato la sua trasmissione, perché io la seguo sì. La Zanzara da parecchio tempo, ha iniziato con lo suo schieramento che era chiaramente berlusconiano. Ma chi l'ha detto? Ma questo lo dice lei. Ma non si preoccupi, è chiaro che se parlo io chi vuole che no, lo dice? Ma lo dice lei, ma è un assunto. Ma cioè... se parlo io chi vuole che lo dice? Sì, ma lo dice io, lei no? Nel senso che non ci sono prove di questa roba qui, è tutto nella sua mente, è tutta una fantasia. Ed è quella la ragione per cui la sta chiamando, perché mi voglio complimentare alla fine di tutti i conti. E allora? Perché funziona in questo modo catartico, mi fa... così tanto alzare l'adrenalina, mi fa così tanto incazzare che alla fine del gioco dico, ma guarda, questa cosa mi fa bene a me, io devo complimentarmi con Cruciani, perché questo suo essere assolutamente illogico e cercare di provocare mi fa bene, perché così poi alla fine lui ci fa il suo spettacolo e noi finalmente c'è una liberazione, sì. Ci si conosce anche un po' meglio, diciamo, no? Allora in Veneto una cosa, però finisco subito sì, una sola osservazione però le voglio fare questa è un pochettino meno un po' più, diciamo, un po' più barbosa ma a noi radioascoltatori un po' di diritti ce li vuole lasciare? Ma lei li sta esercitando in pieno. Ci vuole dare la possibilità di dire, ma guardi che tutte queste cose, alla fin fine, non le può dire, perché non ci crede nemmeno lei. Ma lei capito? Infatti lo sta dicendo, però mi dovrebbe dire che cosa però poi, dovrebbe aggiungere l'oggetto della discussione. Perché, guardi, qualunque cosa io le dico, lei mi risponde in un modo preciso e puntuale, e dicendo, fin tanto che le va bene, fin tanto che queste cose le fa ascolto, sicuramente lei mi dice, ah va bene, io sono d'accordo. Quando poi questa cosa non le va più bene, dice, ah ma lei può cambiare canale, può rispondere da un'altra parte, e in questo modo ci nega il diritto di partecipare a una trasmissione che tutto sommato facciamo anche noi, ha capito? Facciamo anche noi, soprattutto voi. Va bene, grazie. PDL Veneto 2, numero 1 Brunetta, 2 Valentino Valentini, storico collaboratore di Berlusconi, al 3 Michele Zuin, no, al 3 Zuin, c'è o non c'è sto cavolo di Paniz? Dov'è? 3, c'è un altro nome qua. Ah no, sì, 3 Paniz, ma Paniz, sì. 3 Maurizio Paniz. Dunque, Brunetta, Valentini, Paniz. È in lista, di che parla l'amico... L'amico Grosetto, di cosa sta parlando? Vabbè, tanto se gli fanno una querela che serve a lui un po' di soldi da parte degli altri. Beh, si è molto ricco. Sì, Angelo da Bari, buonasera. Buonasera, tu ciao. Dica. Io sono il camionista, buonasera. Ah, mitico Angelo, come sta? È mitico, male. Comunque, io ancora non mi capacito, nemmeno un leghista mi ha chiamato questa sera. Amici della Lega, Maroni a Diego... Ma come fanno a chiamarti leghisti? Quelli non hanno la faccia, dove ce la devono più mettere che da fare? Onorevole Paniz? Sì, sono io. La Zanzara, buonasera, ciao, sono Cruciani. Eccomi. Sono solo attenti, come stai? Allora, ciao, scusami se ti chiamo al volo così, però è una cosa senza... Tranquillo. Allora, noi vogliamo dirimere una questione, soprattutto tu sei avvocato, sì. E allora qui c'è Bondi che ha querelato, o ha detto che vuole querelare, come si chiama? Crosetto, la sai questa storia di oggi, no? No, non so niente. Perché avrebbe detto, Crosetto ha detto, Paniz, un galantuomo, è stato fatto fuori dalle liste e al suo posto è stato messo la fidanzata di Bondi e ha dato poi dei giudizi su Bondi chiamandoli in un certo modo. Ma tu mica sei stato fatto fuori, ci risulta che sei a Veneto 2 al numero 3, o sbaglio? Sì. E allora perché dice così Crosetto? È impazzito? Non so nulla. Cioè, guarda, ti leggo una cosa, era un forum del Fatto Quotidiano. Dove sta adesso? Eccolo qui. Paniz fuori per la donna di Bondi. Quel santo inquisitore di Sandro Bondi ha fatto mettere da parte dei galantuomini. E poi cita il tuo caso. Sono certo che Cosentino sarà. Beh, questo è un giudizio su Cosentino che non c'entra nulla. Dunque, tu ci stai dicendo, io sono tranquillo a Veneto. Io sono terzo a Veneto 2. Sì. Sono tranquillo. Mi pare che la compagna di Sandro Bondi è in Piemonte. È in Piemonte, esattamente, al numero credo 2, della, forse 1 addirittura. No, Malan e poi la Repetti, sì, a Piemonte 2, sì. Per cui perché ha messo in mezzo? Dunque, se Bondi fa una causa, la vince sicuro nei confronti di Grosetto. Ti ripeto, io non so nulla di questa roba qua, anzi non sapevo neanche di questa, sì, di questa nota che mi hai letto in questo momento, quindi io di questo veramente non so nulla. Non so nulla. La frase è questa, virgolettata: in questa formazione delle liste del PDL, un galantuomo come Maurizio Paniz è stato sacrificato da un santo inquisitore come Bondi, che poi ha piazzato la fidanzata. Tutto falso. Non so dirti. Dai, cioè, se la frase dovesse essere questa, non è vero il fatto che tu sei stato sacrificato. Non so che cosa volesse dire. Potrebbe voler dire che ne so che, che potevo meritare il posto di capolista. Ma non credo. Oppure potevo. Dici, dire può essere. Che, mica che un magari potrebbe voler dire che volevano mettere Valentino Valentini magari in Piemonte al posto della Repetti e mettermi più avanti. Ma no, sacrificato non credo. Tu mica ti senti sacrificato, peraltro, dal 3 di Veneto 2, o sì? No, no, io non è che mi sento. Io volevo stare in Veneto 2, non avrei mai accettato di andare da una parte diversa dal mio collegio elettorale. Neanche se mi avessero nominato capolista nel mondo, cioè io volevo comunque confrontarmi col mio elettorato. Numero 3, cioè sei sicuramente in Parlamento e non mi no, pare una... sicuramente no, sicuramente no. Perché no? Il terzo posto non è matematico. Beh, ecco, in Veneto 2 non è matematico il terzo posto. No, non è e che deve succedere? L'altro giorno il giornale ti dava così come sicuro in Parlamento. È che lo diano sicuro i giornali, può essere, ma che sia matematico dunque, no. Dunque Grosetto potrebbe voler dire in realtà sacrificato perché non è in una posizione sicurissima. Esatto, questo potrebbe voler dire, perché in realtà è Veneto il terzo a Veneto 2 è possibile, forse probabile, ma non sicuro. Non sicuro, invece Valentino Valentini è candidato solo lì? Che non è un candidato veneto? Sì, è candidato solo qui. E non è veneto? Non è veneto e dunque questo è un posto assolutamente sicuro. E quello è un posto sicuro. Dunque catapultato, diciamola tutta, Paniz. Sì, sì, è così. Cioè, è fuori di dubbio che non appartiene a questo territorio. Questo è fuori di dubbio. Ah, forse voleva dire questo Grosetto, però. Cioè, sacrificato, non sicurissimo. Ho capito. Magari ho capito. Lui avrà potuto dire che magari potevano catapultare Valentino Valentini in Piemonte al posto della Repetti e mettere me in un posto sicurissimo. Sì, non so, adesso sì, è una ricostruzione che faccio in questo momento. Va bene. Però io mi confronto con i miei elettori. Va bene, certo. Maurizio, però, grazie, scusa, grazie. È una gioia averti sentito. Prego. A presto, che c'è Parenzo? Che c'è? No, volevo dire a Paniz, se può fare una telefonatina a Bondi. E degli di ritirare sta querela perché mi pare veramente inutile, insomma, no? Cosa vabbè, dici? Ma sono due giorni che si un po' si picca, i due si allora, beccano, dai, su. Guarda, premesso facci che facci sta non... cortesia, va? Premesso che non so niente di questa cosa, siete i primi che me lo dicono, quindi non ne sapevo proprio nulla. Beh, diciamo che non è come la crolla delle Torri Gemelle questa. Ecco, poi però sicuramente se in qualche modo posso intervenire per favorire la pace, sai che lo faccio dappertutto. Quindi figurati se non lo faccio anche in questo caso. Grazie, ciao, presto. Lo farò con piacere. Grazie Davide, ciao. Giuseppe. A presto. Ciao. Angelo, allora. Grazie. Angelo il camionista. Allora, persona, che è una brava persona. Cosa allora, c'è ma hai fatto congelare il culo, l'hai fatto congelare. Che è Don Paolo sta qui che sta puntata. Ma che Angelo, che è successo? Ti sei annoiato? Bene. Vabbè, scusa Angelo, però non è che ogni volta io posso tirare fuori il macete, il fucile a canne mozze, la pistola e sparare contro il vetro e gli assistenti. Cioè, non è che ogni giorno ci può essere uno che chiama e dice voglio sparare contro il Parlamento. Cioè non può essere sempre così. Cioè, beh, altrimenti io dopo 2 ore e mezzo esco e la sera vado al manicomio, hai capito? Già vado lo stesso al manicomio perché mi incazzo se una cosa non riesco. Parliamo subito. Beh, caro Parenzo, ti devo far ascoltare perché sono queste le cose che mi piacciono. Due signori, uno che si chiama Iannacone, un altro che si chiama Belcastro. Il signor Elio Belcastro. Appartenevano a qualche gruppo, si chiamano i Sud, Forza Sud, o cose assurde di questo tipo. i quali dicono adesso Berlusconi ci ha fatto il pacco, Iannaccone e Beccastro. Ricordatevi questi nomi, perché fra poco, tra qualche giorno, purtroppo da un certo punto di vista, non li sentirete mai più. Conferenza stampa c'è adesso, però non vedo giornalisti, aspettiamo, forse arriverà. Io... questo è il simbolo che dovevamo apparentare, che non corre perché Berlusconi è venuto meno all'impegno dell'apparentamento. E non sa quello che accade a Napoli quando tu vai a comprare una macchina fotografica, alla fine ti trovi dentro un mattone, è un po' quello che è accaduto a noi. Sono del PDL questi venditori di pacchi. Il presidente Berlusconi aveva dato la sua parola a noi e che saremmo stati sicuramente apparentati perché eravamo stati leali. Ci ha fatto il pacco Berlusconi, come quelli che vendono la roba che dentro ci sono le pietre, le finte radio, i finti registratori, eccetera. Iannaccone e Belcastro, ma voi vi fidate del nulla? Ha promesso a tutti, promette a tutti Berlusconi, ha fatto così. Ancora Iannaccone e Belcastro, siamo radicati. Ma scusa, aspetta, perché avrebbe dovuto premiarli? Beh, perché a un certo punto sono passati con lui, no? Ma siamo radicati, Berlusconi è un bugiardo. Voi eravate radicati sul territorio, perché questo ve lo chiedeva la gente, no? Ma non c'è dubbio, avevamo messo insieme un po' tutte le forze autonomiste d'Italia, e dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Quindi voi avete girato l'Italia cercando il consenso? Sì, Berlusconi che invece si è rivelato persona senza parola. Lei dice che è un bugiardo? È un bugiardo Berlusconi, ma no, dai, non esageriamo adesso. Siamo un altro termine, vediamo. Nei nostri confronti è stato un bugiardo abituale, perché aveva assunto degli impegni politici che non ha mantenuto, nonostante più strette di mano e più parole d'onore. E che sarà mai, che era incontro tra i boss, strette di mano, parola d'onore, eccetera. Su, dai. E beh, sono incazzati perché devono tornare a lavorare, amico mio. Devono tornare a lavorare. Allora, Angelo? Allora, hai visto quando fanno schifo? E io dico a questo popolo di imbecilli, veramente, se vince la destra o vince la sinistra, cruciamo una poca in Germania, vaffanculo a tutti quanti. Popolo, ma dove vai? In Germania? Dove in vai? Germania, Che vai a fare in Germania? Dove stavo? Sono stato 20 anni in Germania. E perché non torni subito invece di aspettare le elezioni? Altro non cambia niente. Perché ti dico una cosa, mia moglie ha detto: Fio, non mi portare là, se no come te ne vai a lavorare? Torni, mi trovi imbiccato a un lampadario. E perché? Perché là è triste. È triste, cruciale, si guadagna, ma è triste. Aglio, tu sei stato mai in Germania? Beh, come no, certo. Ecco, e me hai visto com'è il tempo? Beh, ho capito, triste, amico mio, non è che si può avere la moglie, c'è la botta piena, la moglie ubriaca. Va bene, alla fine pure devi tenere contento alla moglie a polpetto. Senti, volevo dire, dimmi. Popolo italiano imbecilli, ma è un popolo veramente, non voglio dire parolacce. Vabbè, allora... è un popolo, come si fa a votare a Cud testa pelata, là? Quella promessa. Chi è testa pelata? Chi è? Testa per Cud che c'ha il risvolto là, che sembra testa pelata. Ce ne sono tre: Bersani, Androia, Berlusconi, tutti e teste pelate sono. Tutte e due, tutte teste pelate, tutte e teste pelate. Vabbè, non allora... si può votare, perché quella promessa ha promesso alla moglie di quello, a quell'altro, a quella, mica mo mantenere tutte le parole. E dico io, come fanno gli italiani ancora a votarla su Pulcinella? Ma veramente, ma dobbiamo votare a Grillo, Crucià. Ma lei vota che a Grillo? Ce l'ha messo io e tutti quelli che stanno nelle mie condizioni. Sì. Quello che ti ha detto che prendevo il fucile e faceva la strage ha sbagliato, ma quello è il pensiero di tutti, Crucià. Come se io oggi ti dico, a me se mi mettono 100 quintali di tritolo, ma per i miei figli. Aspetti un attimo, fermo. Pronto? Stai zitto un attimo. Fammi dire una parolina a sto poveretto che chiamo ogni tanto, guarda. Sì. Maleducato. Se vai in Germania non sentiremo la sua mancanza. Vai in Germania, vai. Non sentiremo la tua mancanza, caro ascoltatore. Si chiama Angelo. Il solito Angelo volgarissimo. Angelo, allora? Parassita, vai a fare la marchetta al fruttivendolo, vai a fare la marchetta al formaggiaro, che se ti prende col bastone che facevi il formaggiaro usato tu vai a mettere il bastone. fruttivendolo, le banane vai. Che ti ha regalate, sai dove le deve mettere? Vai in Germania, che non sentiremo, non sentiremo la tua mancanza delle tue analisi. Lo sai che fa, Crucia, ascolta a me, quando chiama qualcuno... Vai in Germania, scusa, che non sentiremo la mancanza delle tue analisi approfondite. Ciao Francesco al telefono, ciao scusa, c'ho Francesco al telefono, un bravo ingegnere, un bravo geometra, sapete che gli deve aggiustare la casa e gli ha fatto la marchetta a quello. Poi va, dobbiamo parlare di Abdul, il fruttivendolo, perché gli ha regalato le banane. Diego? Sì. Oh. Eccolo. Ma che fate? Hai candidato tua moglie? No. Non ho candidato mia moglie. Io non candido nessuno, non ho potere di firma per candidare questo. Dai, su, Volpe, ma dai. Sei un genio del male, t'ho soprannominato il genio del male. Il genio del bene, mia moglie è una donna straordinaria che farà benissimo se verrà eletta. Ma non è mai stata leghista in vita sua, mai no, entrata in una sezione della Lega, ma mai. Sempre, guarda che ci sono leghisti che votano per la Lega senza essere entrati in sezione. Mia moglie è più leghista di molti dei leghisti che vanno in sezione. Tu non la conosci, ma se tu la cioè, conosci... è più leghista di tutti di un sacco di militanti della Lega, secondo te? Non c'è dubbio. Non ha mai votato per Berlusconi né per il PDL e me l'ha sempre, e mi ha sempre rinfacciato questa cosa, di mandare a fare ma il culo. Ma da quanto tempo ha la testa, ma scusa, della Lega? Non ha la testa. Ma non ce l'ha mai avuta la testa della Lega. E allora? E allora cosa vuol dire? No, dai, però è una cosa ridicola. Ma tu sei stato un genio, tu da un certo punto di vista sei stato un genio. Perché hai fatto, diciamo la verità, hai fottuto Maroni, diciamola tutto. Non è vero. Ma dai, su. Non ho fottuto nessuno, gli ho dato un'opportunità. Cioè, che è quella di candidare tua moglie. Guarda, che non l'ho fatto per candidare me, allora tu potevi dire perché cosa. Non volevi, perché non volevi. Non la conosci. Non volevi e non potevi, non sto parlando, ma non ti sto dicendo. Quando la conoscerai? Allora, ti renderai conto che razza di donna è, che razza di coglione è, per andare in quel Parlamento a rivoluzionare alcune cose di cui lei è una delle massime esperte a livello nazionale. Di che cosa? Nel suo lavoro, che nelle fa? Risorse scusa, umane, che fa? Counseling e risorse umane, è una lei ha fatto la certificazione della qualità di moltissime università in Italia su incarico del CRUI, tanto per dirti una cosa di rilevanza. Per cui non mi rompete i coglioni, fuggete, lo sapete, e dica la merda di Parenzo, che invece di parlare di persone che non conosce, si informi. No, ma guarda, perché che... ti permette di dire una sola cosa sulla qualità. Ma che c'entra? Nessuno sta mettendo in discussione. Ma che cazzate? Hai fatto un ricatto a Maroni? Sì, hai fatto un ricatto politico. Un ricatto politico. Me l'ha chiesto lui. Non ho chiamato io, mi ha chiamato Maroni. Ma certo, è chiaro, hai messo il simbolo uguale. Non è vero un cazzo, il simbolo è mio, stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione. Ma nessuno l'ha messo in dubbio questa cosa qua, certo che... Non è uguale a niente, io l'ho presentato domenica. Ok, dopo le, per cui. Però scusami, Diego. Diego, non fare il pazzo adesso. Però scusa un attimo, io non nessuno ha messo in discussione la qualità di tua moglie dal punto di vista professionale. Allora, prima conoscete le persone, poi parlate. Ma non abbiamo detto nulla su tua moglie, non hai capito nulla. Non abbiamo detto nulla su tua moglie. Niente, sei tu che hai interpretato le cose male. Non abbiamo detto. Ma le deficienze di Parenzo, da quando ho la tessera della Lega, cosa cazzo vuol dire? Questo vuol dire perché i leghisti. Invece vuol dire asino che non sei altro che un asino. Invece vuol dire. Asino, l'unico asino che dentro sei tu, oltre che Papeo, è cretino. No, però scusami, Diego. Scusami, genio del male. È vero. Parlo solo con Cruciani. Quando parlo con i minus one come te. Però scusa un attimo, a parte questa cosa qui. Ha candidato la moglie che non ha la testa della Lega e ora si incazza con me. Che una radio da confiduta dia la parola a te. Che sei un imbecille. Aspetta, stai tranquillo. Allora, il problema ma è molto semplice. Ma stai tranquillo? No. Scusami, all'inizio della trasmissione. Oddio, mi fai parlare o no? Mi fai parlare o no? No, uno presenta un simbolo che si chiama Prima il Nord, graficamente identico allo slogan di Maroni. Infatti, ho detto è un genio del male. Perché del male, scusa? Ma del male in senso, no? Male che sei un assassino. Scusami, un genio del male perché attraverso un artificio hai ottenuto un risultato. Ma allora, innanzitutto, vedi. Sbagli, perché non c'è nessun artificio. Oddio, io sono andato domenica, ho visto i simboli, non aveva la Lega Nord, non aveva presentato nulla e non c'era nessun simbolo con Prima il Nord. Siccome è un movimento che esiste. Ma che quale esiste? Non esiste nessun movimento Prima il Nord, Diego, però scusami, ma siamo sinceri, però non facciamo le cose. Tu hai giustamente, scusami, io dico una cosa, tu giustamente rivendichi le tue cose, va bene. No, ma ti spiego perché non capite niente. Tu, peraltro è normale che non capisca niente, te lo spiego perché non lo sai. Dimmi. Allora succede questo. Sì. Quando la Lega Nord voleva stare fuori al PDL, ok? era indispensabile, siccome c'era un 30% di leghisti che comunque volevano stare nella coalizione, con Berlusconi, con PDL, eccetera, era necessario, secondo me, creare delle contromisure. E ho cominciato a studiare mesi fa e ho creato una ipotesi concreta, con persone fisiche e tutto, in grado, se la Lega non c'era, di raccogliere almeno quel 30% di elettori che volevano. Sì, però Diego, scusami, non c'è adesso, diciamo le cose come stanno. Tu la metti sul piano politico, quello che è. La cosa reale, sì, va bene, d'accordo. La cosa reale è questa. Ma la colpa non è tua, secondo me, di quello che è accaduto. Ma che colpa? Colpa è una che Maroni, se non c'era questa cosa qui che tu presentavi questo simbolo con scritto prima il Nord, non ti avrebbe mai chiamato per candidare tua moglie. Dai, su. È la prova provata. Del fatto che questa cosa qui, Maroni, intimorito dalla possibilità che questo simbolo potesse sottrargli dei voti. Guarda, tu ti sbagli. Ma perché? Ma è così, è talmente per un motivo semplicissimo. Perché? Intimorito non c'entra niente. C'è un problema diverso. Ma perché? Perché ti ha chiamato? Dimmi perché ti ha chiamato. Mi ha chiamato con molta gentilezza per dire che cosa avevo intenzione di fare. Io gli ho risposto quali erano le mie intenzioni, che cosa potevo fare, e mi ha detto: possiamo parlarne? Certo che possiamo parlarne. Sì, ma questo è tutto un aspetto esteriore della cosa, un aspetto, come dire, ornamentale della cosa. Ti ha chiamato perché c'è questo simbolo che si chiama Prima e Nord. La Lega Nord, nel suo DNA, abilissimo, ma la questione non è politica. Ha costretto sempre, in maniera intelligente e raffinata, a volte meno, a volte più. Anche Silvio Berlusconi, ma tu la metti su un piano politico, ma qui non c'è nulla di politica, perché Maroni non avrebbe mai chiamato, detto con tutto rispetto, sai che ho stima di te, non avrebbe mai chiamato il signor Diego Volpe Pasini se non ci fosse stato questo simbolo Prima Nord. No, se ne sarebbe fottuto. Probabile. Siccome c'era questo simbolo uguale ai simboli della Lega, non l'ha chiamato non ai simboli. Va bene, allo slogan, quello che è, No, è fondamentale. Ma lo sappiamo che non è un simbolo presentato, altrimenti non l'avresti potuto presentare. L'hai presentato in assenza di un simbolo uguale, però è simile a quelli della campagna della Lega Prima Nord. Non è un simbolo, siamo d'accordo. Ti chiama Maroni, io sto traducendo la telefonata perché tu la metti su un piano politico. La telefonata è andata così, guarda. Allora, che cosa vuoi per togliere questo simbolo? No, sbagli. Candido mia moglie. Sì, allora si è ricordato che avevi una moglie, sbagli, Maroni? Si è ricordato che avevi una moglie? Sbaglio. E com'è uscito fuori la candidatura di tua moglie? Avanti. È andata così. Dimmi, avanti, come è uscita così fuori? Il segretario della Lega Nord. Sì. Mi ha chiesto di incontrarlo. Sì, certo. Ci siamo sentiti. Sì. Bene. Abbiamo ipotizzato quali potevano essere le collaborazioni possibili. Sì. Lui ha detto che cosa chiede. Io ho detto nulla per me. Però per c'è una persona che voglio farle conoscere, che secondo me ha qualità per andare in Parlamento come questo a fare un bellissimo lavoro. E che casualmente era tua moglie, questa signora? Mia moglie, certo. Dai, su! Ma è una cosa. Tu hai sempre combattuto nepotismi, cose, clientelismi. Nepotismi di chi? E hai candidato tua moglie. Ma chi devo far candidare? Una persona che non conosco, di cui non so le qualità. Ma dai, su! Ma mia moglie è migliore di tutti quelli che andranno in Parlamento, se ci va andare. Molto migliore anche di molti candidati della Lega. E migliore anche di molti candidati della Lega. Bene, bello ingresso nella Lega. Anzi, ti dirò di più. Che è molto meglio di quasi tutti i candidati del PDL. Meglio dei candidati del PDL, quello adesso tu c'hai questa campagna forzata contro Berlusconi e va bene. Ma scusami, ma come si dovrebbe sentire? Contro le liste. Genio della lampada, come si dovrebbe sentire un militante qualunque della Lega quando legge il nome della tua simpaticissima e intelligentissima signora? E tu non parlare di persone che non conosci, non parlare come deficiente, io parlo solo con Cruciani. Vabbè, adesso ha fatto un'osservazione corretta, Parenzo, ha detto un militante della Lega, un elettore della Lega si trova... I militanti della Lega dell'Emilia Romagna... Sono incazzati neri? Alcuni saranno incazzati neri, legittimo, questo lo capisco. Avranno modo. Di conoscere tua moglie. No, non solo. Ma tu farai il parlamentare ombra? No. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Allora, fino all'altro giorno, evidentemente prima dell'accordo tra Volpe Pasini e Maroni sulla candidatura della moglie di Volpe Pasini al numero 2 dell'Emilia Romagna nella Lega, pur non essendo mai stata, questa è la mia considerazione, mi sarà consentito Volpe Pasini, no? Pur non essendo mai stata iscritta alla Lega, conoscente di Maroni, perché Maroni potrebbe tranquillamente candidare una manager, una consulente come tua moglie, laureata in scienze politiche e successivamente specializzata alla Bocconi, potrebbe tranquillamente conoscerla come manager e poi candidarla. Questo non è avvenuto, gliel'hai presentato tu che sei il marito e dunque ne parli bene, oggettivamente, perché un marito non può parlare male della moglie. Non è che presenti qualcuno a Maroni e dici no, questa qua sei una pippa, però candida lo stesso. Evidentemente gli dici che la persona, e dici pubblicamente che è la persona più brava del mondo, e noi ci crediamo. Fino all'altro giorno, cioè prima di questo accordo, che io ritengo una creazione geniale di Volpe Pasini, una cosa geniale, del male dico, perché secondo me è proprio la fotografia della perversione da un certo punto di vista, perché uno che fa un simbolo uguale allo slogan della Lega, costringe Maroni a chiamarlo e candida sua moglie, è un genio, ma nello stesso tempo una sorta di Lucifero. Allora, fino all'altro giorno sentivo dire, questo lo voglio dire anche agli elettori della Lega, il signor Volpe Pasini pronunciare queste parole, sentiamo. Volpe Pasini sulla Lega, su Berlusconi, eccetera, eccetera, perché c'è anche una parte che riguarda la Lega, Non bisogna votare PDL. Chiunque di centrodestra, l'appello è non votate PDL, non votate Lega, se vogliono votare centrodestra ci sono altri partiti e se no mandino a fare in culo tutti. Non me moleste Moschi. Allora, non votate nemmeno la Lega. Dunque tu stai dicendo agli elettori della Lega, cioè agli elettori di centrodestra, di non votare manco la Lega dove è candidata tua moglie. Dai, su. Com'è corretto? È corretto, vedi? Allora, è corretto, ma tu dici non votare la Lega e poi hai candidato tua moglie con la Lega, ma di che parliamo? Posso parlarti? Sì, dimmi. Posso parlarti? Bene. Allora, io considero. A parte che quell'intervista me l'ha fatta Sciortino in autostrada sabato pomeriggio sotto la neve, quando avevo appena sentito i nomi delle liste. Ma che vuol dire? Tu hai detto non votare la Lega, non è che hai detto quel candidato va bene? No, l'alleanza del PD della Lega. Vabbè, allora? Perché la ritengo sottostante. Allora, io non sono un elettore della Lega, mia moglie sì, io no. Okay. Ma tua moglie sì, lo dice lei adesso, però non è che si sa pubblicamente. Tu non la conosci, non sai niente. Ma fidati, una volta ho capito, scusa, ho capito, è un elettore della Lega, e lo so, dici tu adesso, ma non è che risulta agli atti da qualche parte. Dice... perché voto, cosa fai, fare le fotocopie? Appunto, ma uno può dire tutto adesso, uno può dire tutto, va bene tutto, uno dice... dice tutto a te adesso perché è diventata oggetto del... Vabbè, comunque, lui dice, è stata sempre elettore della Lega, tu dici. È sempre stata elettore, io no. Vabbè, tu no. Io mi sono incazzato in maniera furiosa con... la gestione di queste cacchio di liste. Va bene, ho capito, ma tu hai fatto una furbata, hai fatto una furbata. La politica non c'entra sulla lista, e non dico che tu non fai ragionamenti politici, io dico sulla questione della creazione di questa lista prima il Nord, con successo, che ha ottenuto un risultato, cioè la candidatura di tua moglie in Parlamento, hai fatto una furbata che non ha niente a che fare con le proposte politiche, zero, cioè è una questione, una pura e semplice furbata. Non è una pura e semplice furbata. No, e che cos'è invece? Non è una furbata. Ho un'idea, la applico, la metto in campo. Ma perché non l'hai ritirata in cambio di nulla? Perché non l'hai ritirata in cambio di nulla? Perché hai candidato? Non devo ritirare in cambio di nulla, non l'ho capito, scusa. Ma non ho capito. Allora, ma che significato ha la candidatura? Perché hai ritirato la lista allora? Semplicemente perché sei riuscito a candidare tua moglie? No, perché abbiamo fatto un accordo che riguarda anche altre cose che non sono materiali. E che cos'è? Che cos'è questo accordo? Sgarbi, per esempio, potrebbe essere assessore. Lo vedrai. Ci sono altre cose importanti. Lorenzo, dai metti il punto finale. Ma cosa vuoi che gli dica? Io faccio un appello, elettori della Lega in Emilia Romagna, fate quello che ha detto Volpe Pasini, cioè mandate a fanculo PD e Lega, e questa sera alle 22 guardate il MTV, questo nuovo grande programma che faccio, che ma sono già venduto in 50 pure tu, dai, su. In ma 50 che è sta paesi stranieri. Pure tu, ma sei peggio di Volpe Pasini, che è molto meglio Volpe Pasini che un genio. Cioè, almeno ha fatto una cosa geniale Volpe, no? Cioè, ma anch'io vado alla geniale, racconterò la sua storia. Volpe? Racconterò la sua storia, una storia incredibile. Ti abbraccio, sei un genio. Quando nelle prossime settimane gli attivisti iscritti della Lega Nord Emilia Romagna conosceranno chi hanno come candidato, vedrai... Ma vai in Parlamento sicuro, è un posto sicuro? È un'ottima scelta. È un posto sicuro quello, sì? No, non credo. Beh, come no? Ma che lavorare, su, figure se l'hai fatta mettere in un posto insicuro. Vabbè, ci sentiamo quando è? Domani? Sì, domani 18:30, ciao. L'appello è non votate PDL, non votate Lega, se vogliono votare centrodestra ci sono altri partiti e se no mandino a fare in culo tutti.